Allora, buonasera a tutti. Grazie, che bello, che bella accoglienza. Cosa stai facendo? Qua c'è una scaletta, potremmo rubarla. Proviamo, chiamiamo il primo nome, magari c'è. Intro. C'è tale intro? Come, chi è? Aspetta che metto gli occhiali, allora, che non vedo un cazzo, aspetta. Lui è Fabio. Fabio, lui ha iniziato a esibirsi ai miei open mic a Parma e fa molto schifo, te lo dico. Fa molto schifo. Ma ti devi esibire stasera? Sì, prima che prendo la multa. Che multa devi prendere? Avevo partigiano dei residenti. Quindi mettiamo magari primo. Te la senti primo? Vuoi lanciarti, Fabio? Vuoi lanciarti? Aspetta! Facceli scaldare un attimo, che sennò sei proprio matto come un cavallo che ti butti su così al volo. Ma che lo sa che noi scaldiamo male. Noi scaldiamo di merda, e quindi forse era meglio che salivi subito. Come io non sento un cazzo, ragazzi. Hai ragione, anche ma tu, Vitale, Alberto. Ma lo vedi che c'ha l'esperienza? Io Vitale lo metterei secondo. Visto che fanno tutti brillanti stasera. Ma te ti esibisci? Magari? Scusate, no. una roba per puoi noi. Salire, chi è che vuoi. Stasera si dovrebbe esibire in teoria? Alzi la mano chi si deve esibire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beh, non sei neanche così in tre. Ma secondo me qualcuno l'abbiamo perso per strada, eh? Chi è che è fuori? Chi è il bastardo? No, onestamente ce lo siamo persi. Perché purtroppo Valerio ha detto di sì a tutti e bevendo molto ha detto sì a molte persone. E noi abbiamo perso il conto di chi. Ho anche invitato gente che non voleva venire. Cioè. Gente che è stata obbligata a esibirsi stasera. Avete sentito che bella aria condizionata che c'è qua? Fa più convinti per ragazzi, ci sono 37 gradi fuori. È l'ultima serata questa. Io vedo già gente che ci guarda male, quindi siamo partiti bene. Siamo partiti malissimo. Va bene. Facciamo così. Lo sketch? Ascolta, noi abbiamo uno sketch, fa conto che dietro c'è la scrittura di un autore professionista. No, io l'ho copiato. Lui è un autore professionista. Tu sei un comico professionista? No, no. No, no, come no, la minchia, tu sei un comico professionista. No, io no. Tu cosa fai nella vita? Fai video? Fai film? No. Fai esibizioni? Come no, la minchia, fai stand up, vai in giro sì, a fare... Sì, ma tutto casualmente, cioè un professionista lo fa volendolo, cioè... Ma ti pagano? Ti pagano? A volte. Come vuoi, di la verità. Dai, non fare lo stronzo stasera. Mi sottopagano. Però ti pagano. Male. Magari ti sottopagano per via del tuo carattere, non per via del tuo talento. Non ci hai mai pensato? È un bellissimo. Che forse carattere. È il lato umano che ti fa guadagnare di meno. Io ho un bellissimo carattere. Alzi la mano chi pensa che io sia un bravo ragazzo. Siamo a 3 in più di quelli che si devono esibire, quindi non è un grande numero. Beh, lo sketch scritto dall'autore professionista Andrea Fadeni. Vi ringrazio, no, si è ispirato. È uno sketch copiato da un meme di Facebook che va contestualizzato un attimo. Io sono una dottoressa, donna, lui è un paziente anziano di 80 anni. Il paziente anziano viene nel mio ambulatorio, è lì, io guardo la cartella clinica e gli domando, ma scusi, ma lei beve? Va bene, però offro io. Ma è una cagata, Valerio. È una cagata, ragazzi. Posso dire che io non ho mai stimato né umanamente né intellettualmente quest'uomo qui. Posso dire che la cosa è reciproca. E per questo che facciamo serata insieme. Cosa facciamo? Non so, andiamo avanti, iniziamo a chiamare... chiamiamo il primo stronzo, dai. Allora, primo stronzo, nome e cognome. Bene, signore e signori, e con grandissimo entusiasmo... Da Latina! E stanotte ritorna Latina, Fabio Urgera! Buonasera. Allora, no, io vengo da Parma e mi esibisco per primo perché ho paura della multa, sto più in ansia della multa che salire sul palco, perché paga 30 euro, per me io sto a fare business su business, perché devo andare in Andalusia e quindi devo risparmiare. Un applauso all'Andalusia. Comunque, per molti anni io ho lavorato in un posto pieno di problemi. Come ti chiami? Lorenzo. Secondo te, Lorenzo, dove ho lavorato? Dove ho lavorato? In spiaggia. In spiaggia, quello sicuro, però dove precisamente? Latina. No, Latina no, non ci ho mai lavorato a Latina perché... Americana. Latina americana? Ma tu ti esibisci? No, ho lavorato nei villaggi turistici, un posto pieno di problemi, e infatti ho lavorato perché c'ho un sacco di problemi, se no non mi esibivo qua sopra stasera. Allora, i primi problemi che sorgono per andare in un villaggio turistico è preparare la valigia, soprattutto per le donne. Se vanno all'estero hanno un massimo di 25 kg. E infatti loro si portano fidanzati e mariti non per farsi fare compagnia, ma per il bagaglio dei mariti. Così hanno il bagaglio per portarsi più souvenir possibili. Un'altra cosa che porta stress è il viaggio in sé. E c'è una legge matematica, che soprattutto in Italia, che da qualsiasi città che parti, se passi per la Salerno-Reggio Calabria, ci impieghi 15 ore. Che anche il navigatore ti chiede indicazioni quando arrivi alla Salerno-Reggio Calabria. Ricalcolo. Ma dove cazzo siamo? Un altro problema è arrivare alla reception e la prima domanda che ti fanno sono: qual è la password del wifi? Perché infatti tu non fai i viaggi per rilassarti, no. Ormai li fai per far vedere agli altri che tu fai vacanza, che vai nei villaggi turistici e che alla faccia loro che stanno in città. Un'altra domanda che ti fanno è: quando si magna? Perché per gli italiani per forza si deve magnare, perché se non si magna non si sta bene. E ti danno i primi appuntamenti al villaggio turistico. Il primo appuntamento che ti danno è la colazione alle 7:30. Che se va a caccia alle 7:30? Ma chi ce va a fare colazione alle 7:30? Siete vivi o no? Perché non rispondete, manco una battuta. Io sto andando avanti così a manetta perché ho paura della multa, non perché non voglio calcolarvi. Io non voglio spendere 30 euro questa sera. Infatti io non per... non rispetto a voi, non rimarrò qua, ma perché non ci voglio proprio di prendere questa multa. Comunque, gli dai questo appuntamento, poi un'altra cosa che ti chiedono è: ma ci sta la navetta per andare in spiaggia? Perché meno si fatica, meglio se sta, soprattutto per gli italiani. Quando si arriva al ristorante, si dividono in due categorie, secondo me, le persone del nord e le persone del sud. Le persone del nord di solito in villaggio si concedono un dolcetto, un secondo in più, quelli del sud no, mandano in ava scoperta i bambini Michelin, quelli grossi, che parlano come Jenny Savastano, ci riprendiamo tutto quello che è nostro, che si prendono 8 cornetti, 18 caraffe di succo, pancake, marmellata, tutto e di più per 4 persone, che è più quello che sprecano che quello che si mangiano. Poi si arriva in spiaggia con l'animazione, eppure lì ci sono i simpatici di turno che gli fai: vieni a fare il risveglio muscolare, e loro ti rispondono: ma io sono già sveglio. Ammazza, vuoi fare l'animatore al posto mio tu? Sei simpatico. Oppure: vuoi fare le freccette? Sei tu il bersaglio? Grazie. Un'altra cosa che mi ha fatto molto pensare dei villaggi turistici è il fatto che ci sono due tipi di persone. Le persone che si portano tutta casa appresso per una settimana, e quelli che con un pantaloncino, due mutande e una maglietta ci fanno 2 settimane. Ma non te lavi. Grazie che mi ridi, almeno tu. Mi dai soddisfazione, guarda. Ecco, un'altra cosa stupenda dei villaggi turistici è che si fa un'animazione e un cabaret molto blando, tipo battute del genere: un pulcino dentro al forno dice pio pio pio fuoco. Oppure: dottore, dottore, ho la diarrea, ha provato con il limone? Sì, ma quando tolgo la ricomincia. Battute scrausisi. Tu c'hai problemi, vero? Sì. Ci sta la battuta, meno male. No, però praticamente la gente ride nei villaggi turistici perché dopo una settimana che gli spacchi i coglioni che stai là sempre con loro, ridono perché diventi amico loro. Cioè, è normale. Non ce la fanno più dopo che stai lì a rompergli le scatole. La cosa bella dei villaggi turistici è che a fine settimana tutti si mettono a piangere, che sono contenti di essere stati con te. E io a un certo punto ho visto un signore che stava piangendo disperatamente e io vado là: dai signore, non si preoccupi, l'anno prossimo ritorni qui, io sono di nuovo qui. Ma lui mi fa: ma io lo sto piangendo perché me ne vado. Ma perché devi riprendere la Salerno-Reggio Calabria? Grazie. Valerio Ero. Io adesso me ne vado, grazie, scusate. Allora, se non ho preso la multa ritorno, facciamo così. Fabio Ruggera, che si è preso la multa, godo tantissimo. Adesso, secondo comico, noi abbiamo deciso chi faceva più galletto prima. L'abbiamo sentito fare. Chi è che faceva il galletto? Il pullo magro, il l'abbiamo sentito. Adesso che la serata ancora non è caldissima, lo stronzo se la deve scaldare da sé. Ma sappiamo che è un professionista con almeno un 15 anni sulle spalle, quindi sarà prontissimo. Signore e signori, Alberto Vitale! Grazie, questo mi insegna a stare zitto assolutamente la prossima volta, non c'è dubbio. Sì, allora, un saluto a tutti, scusate, adesso arrivo. E niente, scusate intanto l'abbigliamento, la prima cosa, vi chiedo scusa, non sono molto elegante, io però compro i vestiti al mercato, mi dispiace quelli da 2 euro, anche se ho sospetto che siano usati, l'ultima volta che ho preso una maglia c'era ancora uno dentro. Sono contento di essere qua stasera a vedere tanti giovani che fanno cabaret, che fanno stand-up comedy, e quindi se c'è un attentato stasera torna in auge Colorado, quindi cerchiamo di resistere. Indubbiamente guardando gli altri che si esibiscono sono sicuramente molto più vecchio degli altri, per fortuna c'è Walter Leonardi dopo che mi dà un po' di soddisfazione, però ecco, volevo dire che sono anche più vecchio di quello che sembra, ma a casa mia però ho un quadro come Dorian Gray che invecchia al mio posto, quindi sono contento, però ecco, è uno di quei quadri, uno di quei vecchi che invecchiano bene, capito? Capelli brizzolati, occhiali da sole, e per me è umiliante vedere che il mio quadro scopa più di me. Sono sposato, lo dico, ecco, se c'è qualche ragazza qua, purtroppo ve lo devo dire, sono sposato. E così, però mia moglie l'ho conosciuta tanti anni fa, aveva due bellissimi tatuaggi, aveva un tatuaggio di una freccia sul seno e un bersaglio sull'inguine. E per me è molto bello vedere che dopo solo 10 anni la freccia ha raggiunto il bersaglio. Aveva anche dei bellissimi tatuaggi di ragnatela su una gamba, molto belli. Poi ho scoperto che erano solo vene varicose. Assieme, ecco, abbiamo molte passioni assieme, abbiamo una grande passione per gli animali, tutte e due, diciamo che a lei però piacciono i cavalli e a me piacciono i cani, e questa passione però ci coinvolge anche nel taglio di capelli. Lei infatti porta sempre la coda di cavallo e io li porto a cazzo di cane. Insieme, diciamo, abbiamo prodotto incredibilmente 2 figlie, non come Ivan che ne ha 7, che ve lo voglio dire per tutti, che ha battuto ogni record. No, io ne ho 2 a cui voglio molto bene assolutamente, anzi le saluto, si chiamano Alessia e quell'altra. Mi piace stare con loro, mi piace guardare la televisione, guardiamo spesso film, ho 2 femminucce, quindi a loro piacciono i film di principesse, e quindi guardiamo Frozen 2, e questo solo ieri sera. Allora, per farle addormentare, loro hanno un po' sicuramente un problema di addormentare, io ho scritto questo libro di favole, quindi diciamo non faccio un pezzo di stand-up, ho scritto delle favole. Questo libro in realtà, ecco, ci tengo a dire, ne ho scritto una sola, ma quando mi avvicino al loro letto voglio avere qualcosa di pesante in mano. Questo libro si intitola Favole per dormire, c'è anche la versione cinese, Dolmile pel favole. E la favola di oggi, che ho scritto oggi realmente, e ho pensato, ma dove posso andare a provare un pezzo nuovo che sicuramente farà schifo? Ed eccomi qua. Allora, grazie. Ci tengo a dire anche che mi metto gli occhiali non perché sia vecchio, ma perché mi faccio ancora le pippe. Allora, questa si intitola La piccola tappo di birra. È una favola, adesso, vabbè, non ci sono bambini in sala, ma ci sono molti giovani. Se vi viene sonno, addormentatevi pure tranquillamente, tanto la serata è lunghissima. C'era una volta una dolce bambina molto piccola che tutti chiamavano tappo di birra. Un po' perché era piccola come un tappo di birra, un po' perché bestemmiava come un marinaio ubriaco. Tappo di birra era purtroppo rimasta sola. Il giorno della sua nascita, infatti, l'ostetrica disse alla madre: «Sta per nascere, spinga! Spinga più forte che può!» E tappo di birra, piccola com'era, fu sparata involontariamente dalla vagina della madre, bang, a chilometri di distanza. E non rivide mai più i suoi genitori. Capita a volte. I bambini dormono? No. Ok. Tappo di birra era una bimba molto studiosa, ma a scuola era talmente piccola che nel momento dell'appello la maestra non la sentiva né vedeva. quindi la segnava sempre assente e ogni anno veniva puntualmente bocciata con infamia. Un giorno però accadde un fatto incredibile. Imprecando per l'ennesima volta, con una bestemmia talmente strana da non essere presente nemmeno su Google, fece scendere dal cielo Padre Pio, che rimase molto sorpreso quando la vide, perché si aspettava invece di trovarsi davanti un erboruto camionista veneto. Padre Pio vide la piccola bimba e le disse: «Dimmi, piccolina, cosa ti è successo? Forse posso aiutarti con i miei poteri?» Tappo di birra disse: «Vede, Pio», ma fu interrotta da una voce alla sua destra. «Dimmi, dimmi pure!» «Uè! Ma come? Ma sei anche qua?» disse Tappo di birra. «Io ho il dono dell'ubiquità», disse Padre Pio. «Posso essere in più posti contemporaneamente». «Ok, Pio, allora il mio problema è che...» «Non ti vergognare!» «Ehi!» disse un altro Padre Pio alle sue spalle. «E tre!» disse Tappo di birra, che cominciava a seccarsi. «Ora posso parlare?» «Sì, sì, piccolina, solo un attimo. Ragazzi, il Padre Pio, che in questo momento è al bar, chiede cosa vogliamo da bere. Facciamo tre spritz?» Al che Tappo di birra cacciò un bestemmione da far impallidire anche il Padre Pio, che in quel momento si stava abbronzando sul lettino di Milano Marittima, e disse: «Ora basta, ascoltatemi. Il mio desiderio è diventare grande come le altre bambine che vedo a scuola. Vorrei essere grande il doppio, il triplo, anzi 5 volte tanto, 10 volte tanto, anzi 10 la decima volte tanto. E tutti Padre Pio la contentarono, anche perché avevano voglia di andarsi a bere lo spritz. Tappo di birra cominciò a crescere come aveva desiderato. C'è da dire che la piccolina era molto brava in italiano, ma poco in matematica. Ignorava infatti completamente l'elevamento a potenza. In particolare ignorava che 10 alla decima corrisponde a 10 miliardi di volte e divenne quindi grande 1 milione di chilometri. Non sapeva cosa fare, non sapeva chi chiedere. Poi si ricordò della sua maestra, la sua figura di riferimento. Si recò quindi alla scuola e chiamò a gran voce la sua maestra. La sua voce tonante fece scoperchiare il tetto della scuola e volare via decine di bambini che si dispersero per sempre nella campagna. Ma riuscì ad attirare l'attenzione della maestra, la quale la vide e le disse: «Tappo di birra, sei proprio tu! Non ci posso credere! Finalmente sei venuto a scuola, sono anni che mi fai perdere tempo all'appello!» Tappo di birra la guardò e disse: «Ma vaffanculo!» Poi schiacciò la maestra con un piede enorme, distruggendo l'intera scuola. La botta sul terreno fu talmente forte che si propagò all'interno, spezzando il nucleo centrale della Terra, facendo esplodere definitivamente il pianeta in 1000 pezzettini e sterminando per sempre gli 8 miliardi di abitanti che lo popolavano. Buonanotte e un bacio. Alberto Vitale! Un grande applauso per Alberto Vitale! E adesso c'è uno dei momenti speciali della nostra serata. Perché qui noi non ce ne frega un cazzo, cabaret, stand up, imitazioni, noi vale tutto qua. Noi chiamiamo solo brutte persone. Esatto. Però abbiamo sempre la quota. Visto che bel però che abbiamo fatto. Guarda, sono lì a chiederti di sposarmi. Abbiamo sempre una quota bella persona. Bravo ragazzo, ragazza. Che noi cerchiamo di convertire al nostro fare schifo. Ci riusciremo, chi lo sa. Si vedrà a fine serata. Vi dico lui... solo che Luzzi, Simone Luzzi, per chi lo conosce. Fatti vedere, bastardo. No, non te, Luzzi. Aspetta, dov'è Luzzi? Dov'è Luzzi? Vabbè, in bagno, l'unico momento in cui è in bagno. Fate conto, per quanto è testa di cazzo e non risponde nemmeno al presentatore. Era arrivato qui che era un bravissimo ragazzo. Una volta è venuto, invitato, tutte le altre volte si è presentato e si è voluto esibire. Sì. Per farvi capire come questo posto è speciale per i bravi ragazzi. Ecco il bastardo. No, non tocca a te. No, non tocca a te. Volevamo che ti facessi vedere. Vai via. Saluta. Oh, fanno una confusione, fanno. Sì, sti ragazzi non li riesci a tenere. E quindi adesso abbiamo un altro bravo ragazzo che abbiamo conosciuto un paio di settimane fa, una serata. Dove eravamo, tra l'altro? In Barona. A Ribalta. Ah, sì, qua dietro. Cioè, sì, esatto. In Bovisa. E... a un tuo spettacolo forse. Esatto. E fondamentalmente l'abbiamo visto e lui ha detto: io faccio teatro e noi abbiamo visto il potenziale ma anche la faccia da bravo ragazzo, quindi abbiamo detto: devi venire da noi per diventare un po' una merda. Però prima di chiamarlo sul palco è una cosa un po' concettuale, cioè ci saranno delle imitazioni, delle cose, quindi cioè fate voi un atto di fede nel una imitazione. Ah, solo una? Dice una. Io pensavo ce ne fossero tante. Ma perché te... Allora va male dopo. No, ma sai cos'è? Che lui è modesto. Lui ne avrebbe 6 o 7. Però ne fa una perché così ne dice. Ne fa una perché è modesto. Faccio quella dove mi sento più sicura. Esatto. Va bene, una, forse due. Hai portato la tua imitazione migliore o la peggiore? Sei sicuro? Vedi, questo perché è un bravo ragazzo, forse è stata una merda portare la peggiore. Non ci siamo, non ci siamo. Domanda, tu ti ricordi come si chiama? Io no. Antonio! Non sai il non sai il cognome. Antonio José. E di cognome faccio Dante come Dante Alighieri. Immaginate le prese per il culo alle superiori ogni volta che studiamo la Divina Commedia. Dante come Alighieri. Sì, va bene, allora, mamma mia, cioè, poi c'è gente con cognomi più particolari ancora che dovrebbero solo stare zitti, cioè che si facesse un esame di coscienza, sempre Dante di qua, Dante di là, un cognome di cui andarne fiero, tra parentesi. Quindi, vabbè, io comincio con le quattro battute un po'... Comincio con quattro battute un po' idiote come introduzione, poi farò l'imitazione di uno chef di Masterchef, che è uno con la barba che si incazza sempre, e penso che capirete chi è. E il suo nome, vai, di Carlo Cracco. Inizio con le mie battute stupide. Allora, se vedete uno spagnolo che è triste, ditegli mucho, per loro significa molto. Allora, io non voglio essere amico di Jackson, il cantante, mai con lui, mai col Jackson. Questa è il mio cavallo di battaglia, che la dico sempre a chiunque mi capita a tiro. Ok. Nessuno sa la ricetta segreta della Pepsi, tranne Pep. Pep, sì! Adesso l'ultima. Voglio dire, se non ridete vi biasimo, perché sono davvero battute pirla, però vabbè. Allora, un uomo entra in un negozio e chiede di comprare una camicia. La commessa chiede, ok, la taglia? No, la porto via intera, perché cazzo devo tagliare? Cazzo di domande fai? Cioè, boh, la taglia? No, la porto via intera, cosa faccio? Me l'attacco pezzettini con la cola? Cioè, boh, la penso un po' te. Ok, adesso ho finito di martellarvi coglioni con le mie battute di merda, che fanno ridere sì e no, vabbè. I gusti sono soggettivi, magari a qualcuno sia, a qualcun altro no. Adesso passo all'imitazione dello chef Cracco con le due spalle, perché questo non posso farlo da solo. Io sono il microfono. Allora, un piccolo, aspetta che ci mettiamo vicini, tipo coro greco vicino, allora, a te, aspetta. Una piccola introduzione, eh? Però abbiamo due microfoni, ti dovresti anche fare i cazzi tuoi, perché siamo in tre in due, è proprio pensato. Riesci a usare il diaframma. Allora, una piccola introduzione, giusto per non confondervi. Io faccio lo chef Cracco, allora, come se fossero due cuochi di Hell's Kitchen che non li sto cazziando. Okay. Era meno complicata prima. Non ci ha preparato benissimo. Vabbè, mi devo immedesimare nello chef più isterico nel mondo, Cracco. Ok. Buongiorno. Sono lo chef Carlo Cracco di Hell's Kitchen. Allora, sto vedendo i vostri piatti qua. Questo doveva essere cotto da mezz'ora. Perché non è ancora cotto? Cosa stavate facendo? Cosa stavate facendo tutto questo tempo? Doveva cucinarlo lui. E perché non l'hai fatto? Chiudo gli occhi e sento Cracco. Io proprio... Come ti permetti? Questa è insubordinazione! Ma non volevate capire che doveva essere pronto prima? Non volete capire che questo doveva essere pronto 10 minuti fa? Uno di voi va a casa questa sera! Vado io! Non volete capire? Vorrei andare anch'io, se possibile! Sì? Bene, allora via! Via! Incamerate! No, non è ancora finito! Grazie, grazie! Non ancora finito il cazziatore. Prima che andate in camerata, io voglio ricordare che qua o ci si fa il culo o ve lo faccio io, chiaro? Questa merda qua ve la mangiate voi, capito? Va bene. Questo ciao, piatto qua, rifallo che faccio un rumore. Fai. Fa questo, egoista lui. Questo piatto fa schifo. Schifo fa. Oh, ragazzi, è Hollywood, che cazzo volete? Fa schifo, non lo assaggio nemmeno, non lo fa. Avete ancora la testa del culo, avete? Ma putt- piuttosto vado al McDonald's piuttosto che mangiare questa schifezza qua al McDonald's. Beh, molto lungo questo. Sì, adesso non vi voglio vedere, tutti in camerata, siete tutti responsabili. Via, via. Ce ne andiamo? Veloci. Va bene, signore e signori, è stato un piacere, è stato un piacere. Fate un grosso applauso ad Antonio! Antonio! Grazie! Guarda. Grazie! Grande Antonio! Ragazzi, che fatica stasera! Posso dire, secondo me Antonio sarà difficile farti diventare una merda. No, forse uno dei momenti più alti alle 22-28. Sei il mio arcinemico tu! Cane, che fatica ragazzo! Ascolta, adesso non sappiamo chi c'è. No. Allora, rialzino la mano quel gruppo misto che si deve esibire stasera. Ecco, quelli di cui non sappiamo il nome. Gruppo misto! Ascolta, facciamo esibire quello col baffo bellissimo. No, dai! Lui... Ma, tu sei tornato! È la volta che lo meni stasera? Come no, dai, è l'ultima. Ma scusami, ma l'altra volta il baffo non si collegava alla barba. Eri più al Kogan, eri. Sai che mi piace di... Eroe! Quando le storie hanno un lieto fine. Mi tolgo le ciabatte, faccio come Mogol. Allora, il baffone, chiamiamo il baffone? Il culo. Sì, chi chiamiamo? Che schifo. Vabbè, ho caldo, cosa ti posso dire? Allora, là ci sono almeno 2 o 3 che si devono esibire, ma che noi... Non sappiamo i nomi. Esatto. Alzi la mano chi si deve esibire. Il primo stronzo. Lui! Tu sei un eroe, come ti chiami? Aspetta! Francesco! La terza, giusto? Sei un grande, Francesco, vieni! Francesco, la terza! Un amico! Ma che dico un amico? Un fratello! Porco Giuda! Allora, buonasera. Stasera vi faccio un pezzettino ispirato al lockdown. Devo leggere. Sono calmo. Respiro e sono calmo. Io all'inizio ero contento, All'inizio del lockdown ero contento, pensavo che stare a casa tutto questo tempo poteva essere un'occasione per fare delle cose insieme. Invece un bel giorno viene e mi fa: senti Giovanni, ho deciso di sfruttare questi giorni per prendermi una maggiore cura del mio corpo e del mio spirito. E quindi? E quindi ho deciso che da oggi in poi diventiamo vegani, vedrai come staremo meglio. Maria, ma io non è che mi sento così male, io se mangio male poi mi viene la depressione, mi tornano su tutta una serie di cose croniche, psicosomatiche, ti ho detto della lombalgia, no? Meglio non rischiare. Niente. Neanche il tempo di disquisire intorno all'argomento che mi ritrovo la casa piena di pere, mele, zucchine, melanzane, zucchine indiane che sono quelle amare, talmente amare che per renderle commestibili ci devi mettere sopra lo zucchero. Che io manco se lo metto nel caffè lo zucchero. Sono calmo. Cime di rapa, ceci, fagioli, lenticchie. E poi è arrivato lui. Oddio, quanto è bello, mi fa. È così elegante, fa pure arredamento. E lo va a mettere nel vaso dei fiori dove prima ci tenevamo i tulipani, in salotto. Un odore pesante invade tutta la casa. Una cappa di aria greve irritante che si va a posare sui nostri mobili, sui vestiti, sui nostri divani. Perché c'ha personalità lui, Deve far sentire la sua presenza. Praticamente durante il giorno se lo teneva lì, manco fosse un totem, e a pranzo e a cena se lo mangiava con una voracità di cui francamente non la credevo capace. Che buono, Giovanni, assaggia, assaggia. Le faccio: senti Maria, Se io devo essere sincero, a me il cavolfiore mi fa proprio un po' schifo, eh. Ma come fa a farti così schifo? È così simpatico. Il cavolfiore, oh! Simpatico! E poi questa parola romana, bono, che io dico dove l'avrà sentita. Praticamente era come in trance, non alzava lo sguardo dal piatto. Guardava solo lui, il cavolfiore. Ho capito che stare tanto insieme a casa cala un po' il desiderio, ma a me erano settimane che manco mi sfiorava. Allora una sera vado da lei e faccio: senti Maria, che ne dici se stasera cucino io e facciamo una bella cenetta romantica, ok? No, fai tu. Io stasera mi faccio un bel cavolo cappuccio. Ma come sarebbe a dire ti fai? Ma che linguaggio è? Al massimo ti mangi un altro cavolo cappuccio, non ti fai, scusa. Ma che differenza c'è? Lo so io che differenza c'è. Certo che c'è, certo che c'è. Sono calmo, sono calmo. E che mi sembrava di impazzire. Che poi io dico dovevamo diventare vegani, mica cavolfiorani. E poi naturalmente mi è arrivata pure la lombalgia. Puntuale come un orologio svizzero, in ogni momento di disagio mi aggiravo dolorante per la casa. Ascoltavo le sue telefonate. Cercavo di captare ogni singolo indizio. E poi niente, un giorno me la vedo che si fa tutta carina, si mette pure il profumo, mi fa amore e io esco. E dove vai? Vado al mercato. Erano finiti i cavoli, preciso. Passano 3, 4, 5 ore e questa non tornava. Io per il nervoso mi sono fumato 15 sigarette che io manco fumo. Gli spasmi della lombalgia mi arrivavano fino alle spalle, ero tutto bloccato, stavo per esplodere, me lo sentivo. Quando è arrivata a casa non gli ho dato manco il tempo di togliersi la giacca, gli ho fatto: dove cazzo sei stata? Ero al mercato, te l'ho detto. E perché ci hai messo così tanto? Ho preso quello più grosso, guarda. E mi tira fuori un esemplare mostruoso di cavolfiore gigante di Napoli, praticamente un pallone da basket, tutta un'escrescenza di muscoli e venature, bianco pallido, manco fosse un culturista albino. Io le faccio: senti Maria, avanti, smettiamola con questa commedia. Ma di che stai parlando? Avanti, lo sai benissimo che sto parlando di lui. Oh, ma sei impazzito? È solo un cavolo. No, non sono impazzito, porca miseria, se mi ami buttalo, ma l'ho appena comprato, non me ne frega un cazzo, se mi ami lo butti. E lo va a buttare nel cestino dell'umido. Ma io non ero soddisfatto, eh. Lo butto io, le faccio, lo butto io. E così sono uscito con quel pezzo di merda nel sacchetto e l'ho portato dritto in discarica. Doveva scomparire dalla faccia della terra quell'infame bastardo maledetto. Quando sono tornato a casa però non lo so, lo sentivo ancora. Quell'odore pungente, inconfondibile, doveva essere ancora lì, non c'era altra spiegazione. Allora niente, ho perso completamente la testa. Ho cominciato a ribaltare mobili, ho perlustrato ogni angolo della casa. Le dicevo: Maria, tiralo fuori, dove l'hai nascosto? Quella mi guardava, piangeva, non diceva niente. Allora alla fine io per il nervoso ho preso una costata, perché prima di tornare a casa ero andato dal macellaio a comprarmi due costate perché avevo voglia di sangue. Ho preso una costata, l'ho tirata contro la finestra. Poi l'altra l'ho presa, me la son puntata alla gola e ho detto: amore, tiralo fuori oppure mi ammazzo. E mi fa: Giovanni, io vado a casa di mia madre, così magari ti schiarisci un po' le idee. E magari ti dai anche una calmata. Sono così calmo. E niente. Adesso fanno 2 anni e una settimana che lei non è più qui. Ormai mangio solo carne, di tutti i tipi. Però devo dire che senza di lei non è la stessa cosa. Manco mi piace più. E anche la lombalgia non è che sia passata, eh. Ma cosa mi è successo? Sarà che siamo diventati tutti matti a furia di stare chiusi in casa? Stare da solo però mi ha aiutato a capire che forse sì, forse stavo sbagliando, esagerato. Adesso però io sono un uomo nuovo, sono un uomo più libero, più aperto, più emancipato e soprattutto sono un uomo calmo, Maria. Maria, ti prego, io ti amo, torna da me, ti prego. se vorrai continuare a portare a casa anche lui, per me non c'è problema. Sono disposto ad accoglierlo in casa con rispetto, educazione, davvero gentiluomo. Purché però, Maria, ci sia rispetto ed educazione anche dall'altra parte. Perché se poi questo deve tornare a spadroneggiare a casa mia, a prendermi per il culo davanti a mia moglie, allora non ci siamo capiti. Io lo prendo, lo spacco in due, gli tiro fuori il cuore, lo butto dalla finestra e poi gli metto fuoco. Son calmo, grazie. Signore e signori, Adolf Hitler. Mamma mia, sì. Quanto mi ha emozionato questo discorso in cui... Sembrava una chiamata alla nazione, sì. Cazzo. Io ero pronto. Io andiamo carico, a picchiarli tutti. Io carico. Ma quelli scuri? Cosa stai facendo? Lo visto adesso. Ma te sembri il calciatore che crei la Pro Evolution Soccer. Cosa ti è successo? Vuoi salire sul palco? Stasera vale tutto. Va bene. Sali sul palco. Sali adesso? Vai, non sappiamo chi è. Vai. Vai, vai. Non c'è, è una finta, no? Sta salendo. Allora introducilo, come ti chiami? Giancarlino. Sei sicuro? Lascia fare. Vai. Allora, pare Giancarlino. Dai, Gianca. Buonasera, bella gente. Buonasera a tutti. Allora, innanzitutto volevo ringraziare il mio amico Andrea Bocelli per l'arredamento del locale, che è bellissimo, è venuto veramente bene. Grazie, Andrea. So che mi stai guardando, ti voglio un sacco di bene. Comunque, non so se... tra di voi c'è qualcuno che mi ha riconosciuto, c'è qualcuno dei miei followers per caso? Nessuno? Vabbè, aspetta un momento allora, ci penso io. Mi metto come la foto profilo dell'Instagram. Adesso? Adesso sì, sì. Dai ragazzi, sono Giancarlino, io ho più di 3 milioni di followers sull'Instagram e sul TikTok, Io sono famosissimo, Vabbè, con queste facce da fax, che cazzo ne sapete di influencer voi? Vabbè, lasciamo perdere. Comunque, adesso non è per dire, però praticamente cosa è successo? Io da quando ero in pensione mi annoiavo un sacco. Tutti i cantieri li avevo già visti su Google Maps in 3D. Non sapevo cosa fare, allora ho detto proviamo a inseguire il sogno di tutta la mia generazione, diventare influencer. Io sono del 38, tutti influencer. Solo che mi avanzavo lo stesso del tempo, allora ho detto vabbè, sai cosa c'è? Sai cosa faccio? Faccio l'imprenditore. Allora sono diventato imprenditore, sono diventato CEO. Infatti, già che c'ho, ho fatto una startup, si chiama Decrepitech. Una meraviglia Decrepitech. Siamo un team fresco, siamo tutti over 85. Sì, infatti ogni tanto qualcuno si raffredda del tutto. Però non è per colpa nostra, Noi i dipendenti li viziamo tutti. Abbiamo un sacco di benefits. Allora, abbiamo dentiera aziendale. Per i dirigenti, anche coi denti d'oro. Sì. Poi abbiamo ampia gamma di anche a chilometro zero, che non si sa mai che quella è un attimo che va via. Poi, mortis in fundo, abbiamo anche il becchino aziendale. Sì. Ma non è normale, è un becchino bio. Sì. Perché ci siamo dovuti adeguare ai nuovi standards. Sì. Praticamente la Greta Thunberg mi ha inviato un becchino biologico, direttamente dalla Svezia, dovete vederlo, questo qua è fissato, è sempre lì, è santo bio, E mannaggia mio, e porco mio, è una roba, è veramente, è fissatissimo questo qua, è una roba, ce l'ha proprio in testa il mio. Comunque va bene, adesso, non per farmi perdermi delle arie, però siamo leader di mercato. Noi facciamo le apps della terza età, siamo noi, perché solo noi conosciamo i veri bisogni degli anziani, soprattutto evitiamo che se li facciano addosso. Sì. Sì, sì. Perché noi, insomma, dietro questi bisogni qua ci è venuta l'idea. Abbiamo detto, ciao, facciamo l'apps. Allora abbiamo fatto un'app che ti avvisa quando devi andare in bagno, così non te la fai addosso. L'abbiamo chiamata Sfinterest. Sì. Sì. Al marketing sono bravissimi da noi. Tra l'altro abbiamo anche una versione a pagamento, Cagason Prime. Bellissima. Tra l'altro si può, praticamente cosa fate? Prendete la versione Prime, voi vi installate un piccolo gingino qua, dove non batte il sole, così lì praticamente vi chiude il buco Prime che ve la fate addosso. È così. Fatelo, fatelo. È così. È così. Tra l'altro, l'altro giorno ero in meetings, a un certo punto il Mario, che è il responsabile della sicurezza sul lavoro, prende e se ne va. Porca miseria. Vabbè, c'ha l'Alzheimer. Solo che il problema qual è? È che Mario da giovane era campione mondiale di nascondino. Porca puttana. Ci abbiamo messo 3 settimane. L'abbiamo trovato 3 settimane dopo. Era nascosto sotto una minigonna di una prostituta sulla Paulese. Era veramente nei cazzi, ve lo dico, ve lo dico. Allora, ci è venuto l'idea. Abbiamo fatto l'apps. Abbiamo fatto l'apps, si chiama Dovago. Allora, voi prendete, la installate nel telefono di questo qua che continua ad andare in giro. Noi abbiamo il Gigi, che lui era campione delle macchinette, quelle dei peluche al bowling di Nerviano, era bravissimo. Ecco, al Gigi gli abbiamo dato un bel drone, che lo prende e lo va a recuperare e ve lo riconsegna a casa in 15 minuti. Adesso è ipovedente, ma il talento è rimasto, ve lo assicuro, è molto bravo. Abbiamo anche qui una versione un po' avanzata per quelli che hanno magari la sedia a rotelle e quella elettrica. Noi veniamo, massima discrezione, siamo bravissimi, gli mettiamo i motori della Tesla. Quando si allontana troppo, prendiamo l'autopilot, ve lo riportiamo a casa, garantiamo anche la pettinatura permanente, che tanto a 180 in autostrada arriva bello pettinato, ve lo dico io, una garanzia. Oh, santo cielo, c'ho un mal di schiena stasera. Comunque, vabbè, non è che mi va sempre bene, ve lo dico. Il mese scorso mi sono rotto l'anca. Sala da ballo. Porca miseria. Ero al corso di twerking. Se no, su TikTok non li fai mica i follower se non fai il twerking. Porca miseria, mi sono rotto l'anca. Allora ho detto, vabbè, già che mi sono rotto l'anca, ci ho messo dentro wifi, nell'anca nuova. Ci ho fatto l'apps. Anca mi. Funziona benissimo. Ci ho messo dentro 10 stili di ballo differenti. Adesso vi faccio vedere. Sono diventato il campione del twerking di tutta la classe. Aspetta, Aspetta un momento. Aspetta, Ma che roba? O no? Settimana scorsa mi ha chiamato l'Elettra Lamborghini per delle ripetizioni. E io ho detto, c'ho mica tempo da perdere io, qua devo fare il business. E vabbè. Ci ho messo anche dentro il tango, settimana prossima dovrei andare in Argentina a fare un torneo. Però, paura che la rosa mi rovina la dentiera, ci vado mica. Non mi piace mica. Vabbè, comunque, già che siamo in confidenza, vi svelo una funzione segreta dell'anca. Allora, c'è mia moglie, la Gina. Infatti ogni volta che la vedono i miei amici, ah, va Gina. Vabbè, scusate, questa era brutta. Ho fatto una funzione segreta. Praticamente ho connesso con l'apps direttamente con un microchip che ho messo nell'anca del Rocco Siffredi. Proprio lui. La stiamo ancora testando. Infatti ho un po' di problemini, però se lui la sta usando in diretta, io vedo cosa sta facendo. Facciamo una prova e speriamo bene. Ma che roba. Eh? O no? Eh sì. Pensate, l'ho provata settimana scorsa, 8 ore. C'era la Gina che non ne poteva più. Non ne poteva più. Ho preso anche la vicina, già che c'ero dentro. E vabbè, e comunque adesso, in teoria smette dopo un po' lui, in generale. Soprattutto alle 22.48. Però mi sa che c'è un vizietto quello lì. E niente, e, comunque vabbè, tanto c'è il Mariangelo che ha il servizio tecnico. E secondo me se lo chiamo sul fisso mi risponde. E niente, adesso spero di non incontrare nessuno sul pullman, se no sono cazzi. Comunque arrivederci. Giancarlino, facciamo sentire tutto il nostro calore. Allora signori, dopo Giancarlino c'è un bel cazzo di problema, non è uno scherzo. Comunque ti faccio notare che buona parte del pubblico se n'è già andata. Ma dici che è stato, chi è stato, Giancarlino? No, o primo? In generale stiamo facendo cagare. Una bella scaletta. Ma quello volevamo noi, far cagare dall'inizio alla fine. Io sono fiero. Però c'è un problema adesso serio, esatto. una Hyundai e una Honda Smart. Oh. Stanno bloccando delle macchine che devono Hyundai, andare via. Chi ha una Smart? Chi ha la Hyundai e chi ha la Smart? La Hyundai, ma sei tu? Ma ci conosciamo da quanti anni? Mi fai ancora ste robe qua? Non so il colore, ma hanno detto una Hyundai. Posso dirti, Faddi, che ognuno ha gli amici che si merita. E io anche a te come amico. Esatto. Allora, vai a fare in culo. Grazie. Chi è che ha la Smart? Non c'è nessuno che ha la Smart. Allora, la Hyundai forse l'abbiamo risolta. Secondo me la Smart ce l'ha quel faccia di merda lì che guarda quando... Sta su, cazzo. No, te, guardati in giro, bastardo. Ma ne sta indicando... Sì, no, che viene davvero, no. Okay. Ne hai indicati 4, così alla fine hai fatto un po' di confusione. Passiamo al prossimo comico. Adesso... No, non voglio scendere dal palco, mi menano. Oh, ti stavo aspettando lì, sono scesi tutti e due. Allora, quello pelato no. È l'ultima sera, alla fine, anche allora l'ultima sera, che cazzo gliene frega, ti posso menano. Posso menarmi. Esatto, mica devi tornare. Vabbè, tanto... Chiamiamo un abitué del locale, il primo bravo ragazzo che abbiamo fatto diventare, esatto, faccia di merda. Esatto, è diventato un cocainomane. Simone Luzzi! Simone Luzzi! Due merde! Vedo un sacco di facce che immagino siano nuove che fanno, ma è sempre così? Sì, sempre così, non fa niente. Non sto a mio agio con questo, prendo quest'altro, scusate il momento tecnico. Ma raga, voi che state in piedi, che avete già preso da bere, mettete, siamo in 7 qua dentro. Ok, su 10-1, però vabbè, ma contento. Oh, mazza, vedo un po' stanchi, un po' morti del sonno. Facciamo un applausone! Alduce! Lo so, fatemi finire prima di essere d'accordo. Comunque, detto questo, no, succede, sto periodo sto un po' avendo dei ripensamenti sul mio fare il comico, più che altro perché Confucio diceva trova quello che ti piace fare, non lavorerai mai un giorno nella tua vita... E non aveva idea di quanto fosse letterale questa frase, proprio è vero, non lavori, non succede. E poi qual era il lavoro di Confucio? Si affacciava dal balcone e faceva tipo, la vita è come una scatola di cioccolatine, tutti sotto, pa, ecco un'altra perla, segna. Non è che cazzo ne sa lavorare Confucio? Bah, io faccio questi spettacoli qua, mi paga complimenti e birre, che è meglio di insurti e acqua, ma peggio dei sordi e sordi. Però, che dire, è così che io fa. Succede pure spesso che mi fermo a parlare con le persone dopo lo spettacolo e sono scambi molto strani. L'altra volta mi ha fermato una ragazza che non avevo mai visto e mi chiede come prima cosa come sono gli orgasmi maschili. E io, non avendo di... che cazzo risponde, io faccio, bah, penso come i vostri, ma con meno rincorsa. Cioè, no, i vostri sono tipo, cominciato a tremare, c'è quel momento in cui tipo vi allontanate, no? Io sto là, do cazzo vai, e poi dura tipo 35 minuti in orgasmo, no? Il nostro invece è più come quando tipo pianti freddo la pancia e senti che ti stai per cacare sotto. Tipo, ok, sta arrivando, è questione di minuti e devo solo capire dove lasciarlo il carico, capito? È così il nostro. Ah, che schifo, lo so, lo so, che dire, penso questo perché di recente mi sono lasciato. Chi c'era qua l'altra volta? Nessuno, ok, posso farlo. 2, 3, ignorabili, perfetto. Voi gli altri datemi retta. No, mi sono lasciato a 23 anni, era la prima volta. È stato strano perché io reputo sia un'esperienza che va fatta a 16 anni, no? Quindi io mi sono trovato a provare emozioni da sedicenne in un cervello di 23, in una faccia che comunque ne dimostra 16. Ero l'unico che sentiva questa discrepanza, no? Io potevo mettermi a piangere in macchina, passavo le persone e facevo: oddio, qualcuno ha lasciato il figlio in macchina. Dove sono i tuoi genitori? Nelle Marche! Ho lasciato a Milano, che cazzo! È stato strano anche perché io ho sempre trattato le mie emozioni come la mafia. Faccio finta che non ci siano e se aspetto abbastanza tempo diventa un problema dei miei figli. Detto questo, mi ha chiamato un mio amico siciliano, ha fatto: vieni a fare uno spettacolo a Palermo. Dico: questa non la dico. Tratto le mie emozioni come tratto lo Stato. Comunque, detto questo, no, è stato strano anche perché è strano a 23 anni, ma anche oggi, cioè con Instagram è strano perché io non ho la forza di non guardare le storie. E mi sento un po' come uno stalker, ma in qualche modo peggio, perché tipo agli stalker gli piace quello che vede, no? E invece tipo guardo e sta sempre con quell'amico, no? Che faceva un sacco di battute, oh stronzo, lavoro mio, no? E sta sempre con quello, va, aperitivo, stiamo a casa, foto polaroid, di cazzo. A sapercelo prima. Potessi tornare indietro gli farei i complimenti, perché non sapevo di avere davanti il Winston Churchill della fregna. Questa battaglia, questa guerra di logoramento, sta fregna se l'ha guadagnata centimetro, centimetro, piano, piano, ragazzo dopo ragazzo, e mo ce l'ha fatta. Bravo, Winston. Ah! Sì, era un piccolo sfogo. Adesso provo una cosa nuova che volevo provare oggi. Vi chiedo di essere calorosi perché non so se fa ridere davvero. Ok. Il primo che ha applaudito è un comico. Siamo in 15, in realtà so che non conta un cazzo questa mia prova, siamo tutti comici, non è un vero pubblico, però vabbè, ne fa niente. Detto questo, pensavo questi giorni che non ho mai manco rubato un euro a mia madre, non ho mai fatto niente di illegale, ed è per questo che secondo me tipo tra un mese ammazzo una vecchia. Sto sicuro, perché non sto sfogando il mio crimine, no? Cioè tipo quello che fanno la gente, tipo che fa i graffiti, no? Entra in proprietà privata, te sfoga, no? Cioè perché il crimine si accumula, a parte una parentesi sui muri, perché la gente scrive i nomi sui muri? È una domanda vera. Perché? Perché no. Come perché no? L'unico frangente in cui puoi scrivere il nome sul muro è se tu hai appena finito di fare il muro e fa: ma ottimo lavoro, Simone. Questo è l'unico fatto io. Questo è vabbè, detto questo, mi sto accumulando il crimine, che è diverso dalla rabbia repressa, perché la rabbia repressa tipo ti fa sentire fico quando la sfoghi, no? Rompi le cose, urli. Invece tipo il crimine quando lo sfoghi è tipo strozzi canarini, no? C'ha voglia tipo dai calci ai pincher per vedere quanto lontano arriva. Non è il miglior posto in cui stare. Cioè, io lo sento che cresce, tipo faccio, taglio le cipolle e penso: ma si è affilato sto coltello. Non è il posto migliore emotivamente in cui stare. E l'unica cosa che mi sta aiutando senza ammazzare qualcuno è i videogiochi violenti. Se dice che rendono violenti, no, al contrario. Io non sono violento perché mi sfogo là. Si dice: fai quello che potresti fare. Appunto, mi sfogo così. Non so come spiegarmi. Cioè, avete mai visto un bambino quando gli staccano l'elettricità che sta a fare i videogiochi? È perché non ha finito a sfogarsi, sta ancora in modalità crimine, è quello. Io sono venuto qua per guardare, in realtà, stasera, sto facendo questo. Tu che racconti? Ti vedo, stai scomodo, sai? Cioè, rimani qua, pure tu stai... I nomi? Visto? Chiaro, ci sta, mi piace. C'ho un po' paura adesso a parlare con te. No, vabbè, faccio una cosa che fa effettivamente ridere, dai, c'ho altri 3 minuti che mi sono bruciato tutto. Allora, succede spesso che mi vengono dati dei consigli, tipo mentre crescevo mia madre mi diceva sempre: se esci di casa, mettiti il portafoglio in una tasca dove lo senti, così che se te lo rubano te ne accorgi subito. Io sempre mi sono sempre chiesto, poi? Che ci faccio con questo tempo extra? Rubo un altro portafoglio, come il cibo, no? Che quando te casca c'è 5 secondi, no, non funziona. Perché quando ti arriva un consiglio che non lo chiedi, vai per forza sul generale e non serve. L'altra volta stavo al McDonald's e mi arriva uno che mi fa: se ti vuoi suicidare devi tagliarti le vene in verticale, non in orizzontale, così mori sicuro. Io avevo chiesto McFlurry, dico, me lo fai, non me lo fai, che devo fare? È rotta la macchina, qual è il problema? Che c'hai? Non te paga. Vabbè. Ma in quanto a consigli di merda, le migliori a dare consigli di merda sono le mie amiche femmine. Quelle sono le uniche che so sicuro me la consigli per farmi arrestare. Faccio 3 brevi esempi perché ho visto che c'era tipo sta cosa degli alpini che molesta, no? Ho detto, le ragazze già hanno paura di uscire la sera. Me ne sono reso conto da poco. Dice, è tardi, lo so. E ho chiesto come posso migliorare il mio comportamento la sera per non far intimorire le ragazze. Lecito. Ho dato questi consigli de merda. Mi ha fatto, se vedi una ragazza davanti a te la sera che sta camminando, tu fai in modo da superarla così che lei capisce che non la stai seguendo. Se, no, sembra. Ma se lei comincia a correre, la inseguo, la sorpasso, che fatica fate stare tranquilla. No, non funziona. La seconda cosa che mi ha chiesto è stata, segnala la tua presenza, mi ha detto. E io faccio, comunque sono le 3 di notte nello scenario. Cioè, metti caso tu stasera stai tornando a casa, no? Magari non c'è manco paura, stai a camminare e tutto quello che senti è, ehi! A 100 metri di distanza dietro vedi a me che faccio, ciao, volevo solo dirti che io sto qua dietro, ok? No. L'altra cosa che mi hanno detto, l'ultima cosa che mi hanno detto, poi me ne vado perché pure ora fa caldo qua sopra, è, se vedi che una situazione si fa pericolosa, intervieni. Io sono 1,70 m per 60 kg. Stronza, va che ci stupra tutti e due! Io ho fatto judo, ho fatto 10 anni judo, ho fatto schifo tutti e 10 gli anni. Ho fatto una volta, sono arrivato secondo a una gara di judo. Quelli bravi non erano venuti, era una gara di beneficenza e al primo gli mancava una gamba. Che è importante a judo. Detto questo, ragazze, lo so, arriva tardi questa. Come quello quando stai in ritardo. Vabbè, comunque. Detto questo, ragazze, vi devo dire un'ultima cosa. Se stasera la situazione si fa pericolosa per strada, qualcuno vi accerchia, siete da sole, vedete me. Mi dispiace. Buonasera, grazie. Richiamo sul palco Valerio Ro e Andrea Fadenti. Simone Luzzi e il suo grandissimo eroismo. Abbiamo altre macchine da spostare, no? Ma fra l'altro pare che abbiamo spostato la macchina sbagliata. Però si è liberato compenso, un parcheggio. In compenso adesso c'è una multipla che è bloccata. Una multipla. Però questa maratona, noi abbiamo detto maratona, ma in realtà stiamo andando. Non eravamo neanche così tanti. Sono le 11 e mancano 3 comici. Ma perché noi abbiamo fatto come il capodanno di Fantozzi? Abbiamo detto andate veloci, via. Ah, tiriamo avanti. In realtà no, è un peccato non finire a mezzanotte. Sì, ma ci arriviamo. Ci arriviamo, guarda, ci arriviamo. Facciamo in modo di arrivarci. Formenti, te ti esibisci a Luna, te lo dico. Volevamo metterti in chiusa in quanto unica quota femminile. Un attimo, chi è che ancora deve esibirsi? Perché magari c'è qualcuno. Alzi la mano chi deve esibirsi. C'è quel ragazzo lì. Questo perché sei una merda e quindi va bene per brutte persone. Allora, 1, 2, 3 e ce n'era un altro. No, non c'è un quarto. No, non è lui quello mio, sì. È sì. Quello tuo lui, è lo speaker, sei lo speaker. Sei Simone? Perfetto. Ma sei lo speaker? Volevo dire, aspetta, è errore mio, no, volevo dire Davide, hai ragione. È lo speaker o no? Sì, ma l'ho chiamato Simone. E quindi siamo 3. Boh. Vabbè, scorreggiamo un attimo anche noi. Che fatica, ragazzi, che caldo. Adesso andiamo con un bel momento, esatto. Perché chiamiamo un veterano, esatto. Un uomo che si esibisce. Questo è il momento... Momento molto importante, signori, si dice nel calcio che i veri campioni, anche da fermi, giocano bene. Lui fermo lo è sicuro, che gioca bene, insomma, fino a lì, una cariatide del cazzo. Fate un grosso applauso alla quota stand-up! Pater Leonardi! Guardate. Chi ha portato la stand-up in Italia? Pater Leonardi! Guarda, non dico niente, ti chiedo scusa, Walter. No, state qua, state qua. No, io me ne vado per la vergogna che provo. No, no, vieni qua, testa di cazzo. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Mi vergogno molto per come ti ha introdotto, perché lui non ha rispetto per... state qua perché se no andate di là e fate un bordello. Hai ragione, allora. Siete due merde, siete gli irresponsabili dello spazio. Stand up. Ma quale stand up e stand up, pirla? Io faccio cabaret. Ma tu non sei... Dimmi la differenza. Tu devi stare zitto! Devi stare zitto quando parla lui. Stai zitto. Guarda, guarda, mi sentite? Senti, che cazzo serve? Senti, ma perché lo urli? Ma perché stai urlando? Cosa serve? Deficiente. Dolto? No, no, no. Allora, l'ho toccato io prima. Sì, però lui non può toccarti. Allora, lei tocca, io ritocco. Io ritocco. Cosa sta diventando sta serata? Sembra... Non so, però ti prego, sta ricchezzando. Una cosa, questa è una notizia vera. Uscirà un film. Io e Walter Leonardi, protagonisti, i nuovi Stanlio Olio. Abbiamo firmato il contratto, un'idea di Walter Leonardi, una sceneggiatura di Walter Leonardi. Perché è sordo, è sordo. Ma non ti arriva la voce? No, urla, urla, urla di là però, non ti girare, puzzi poi, dai, stai là. Ma mi sono impegnato per puzzare. Possiamo scendere che ti faccio, perché io... Molto meglio, ma dopo di là fate casino. No, ma lo porto fuori, lo porto in sempione. Allora, io se scendo... Ti tiro un pugno forte adesso. Vai! Dammi la mano. Vai! Che brutto lavorare con gli ubriachi, cazzo. Un applauso a quel vecchio signore di Walter Leonardi. Allora, buonasera. Siccome questo non serve, serve? Serve? Cioè, è uguale la stessa roba. Allora, lo metto qua perché bisogna fare stand-up e bisogna dire... Io non faccio stand-up, faccio una roba che si faceva una volta, però ogni tanto dirò sborra, ok? Siamo tutti concordi, così tutto è a posto, va bene? Ok, parto con la prima battuta, sborra. Okay. Va bene, sono qua perché io devo pubblicizzare uno spettacolo. Io devo pensare questo. Vai, vai, vai. Ne faremo il 6 di luglio. 7. No, il 6! Scusa, errore mio! No, non è il tuo, anche mio, però ci ho messo 26 giorni. Perché c'era. Io dicevo sempre, allora il 7, per il 7 cosa facciamo? Guarda che il 6, ah sì, è vero, scusate, il 6. E ci ho messo un sacco di tempo a capire che era il 6 e non il 7 di luglio. Il 6 di luglio, hai capito? Il 6. E non posso scrivere! Non vi vedo scrivere, ragazzi, devo prendere appunti. Il 6 di luglio facciamo lo spettacolo anche qua adesso, all'Arena Milano Est. Sì, scrivi perché che cazzo sa dov'è l'Arena Milano Est? Alzi la mano che lo sa. Esatto, tu lo sai? No, Pietro, tu non vali. Tu lo sai? Veramente? E dov'è? Un applauso. Provo anche l'altra. Allora, è il Teatro Martinit. Chi sa cos'è e dov'è il Teatro Martinit? Uno, due, tre. Hai visto tre? Cioè, non è una grande percentuale. Sì, no? Zona Ortica. Sì, è Rubatino. Sì, però vicino all'Ortica. È lì così, sì. Nessuno sa dov'è questo spazio. Bene. E infatti, ragazzi, se volete venire dovete affrettarvi perché ci sono pochi posti liberi, mancano i 750 posti da riempire. Per cui è un po' un casino. E cos'altro dire? Questo è uno spettacolo fatto per buonisti. È una lezione. È un corso di sopravvivenza per buonisti al mondo reale. Insomma, un corso di sopravvivenza al mondo nuovo, al paese reale che stiamo vivendo adesso, no? Però abbiamo vinto il secondo turno, avete visto? Oggi. Quanti buonisti ci sono in sala? Sono fatti furbi. Cioè, già che siete qua, che siete venuti a vedere uno spettacolino di stand-up, di cabaret, di teatro, cazzo, che vuol dire che siete buonisti? Già per il fatto che conoscete che cosa vogliono dire queste parole, vuol dire che siete buonisti, ok? Ok? Per cui io sono buonista, sono di sinistra, purtroppo è così, Ma non è colpa mia, io sono nato in una famiglia di sinistra, ci deve essere un gene con la faccia di Trotsky dentro nel nostro DNA, che gira così, cioè per dirvi, a me addormentavano quando ero bambino con delle fiabe, mia mamma mi raccontava delle fiabe del genere, diceva, allora la zia prese la scure sopra il cammino e disse ai fascisti fuori di casa, entrate a uno, che vi taglio la testa a tutti, vai! E io dormivo. La cosa è brutta. Comunque, vabbè, insomma. Comunque noi buonisti ci muoviamo sempre assieme, no? Siamo sempre assieme, siamo sempre uniti. Vabbè, come tutti, voglio dire, non quelli di destra, non è che hanno gli amici di sinistra, cioè, ma noi abbiamo il nostro giro, la nostra bolla si chiama adesso, no? Però ogni tanto siamo costretti ad uscire da questa bolla, tipo quando manca la quinoa. E devi uscire a prendere, a comprarla, non è che puoi stare così. E allora noi che cosa facciamo? Inforchiamo le nostre Birkenstock e stasera ce ne sono un botto, perché prima di farlo ho partito a guardarlo. E usciamo nel mondo reale, no? E là che cosa troviamo? Troviamo quelli lì, quelli che stanno lì in mezzo, quelli che ragionano per slogan, no? E noi quando incontriamo loro, che cosa facciamo? Cominciamo a sudare, quando abbiamo una discussione con loro, cominciamo a sudare perché vorremmo portare al ragionamento il nostro interlocutore, ma dai, ma come fai? Cioè, ma per piacere, è come voler portare al ragionamento, che cazzo ne so, Barbara D'Urso, dai, ma come si fa? È bionda? Non si può, ok? Cioè, è impossibile. Allora cosa facciamo? Noi ci intestardiamo come se tutti avessero a cuore il bene comune. Ma chi cazzo gliene frega del bene comune? Neanche a noi tutti interessa realmente il bene. Ognuno guarda il proprio orticello, perché pensate bene, cioè, all'epoca, cioè oggi, scusate, ho sbagliato, oggi sceglierebbero tutti Gesù, ok? Ma all'epoca hanno scelto tutti Barabba, e non di poco, eh? Perché Gesù ha preso meno voti di Renzi, ragazzi. Okay. Per cui pensate a questa cosa, pensateci. E quindi che cosa fare? Venire allo spettacolo, perché è una questione di sopravvivenza. Come facciamo noi a sopravvivere a questa cosa? Io lo spiego durante lo spettacolo, mi trasformo in un sovranista, perché così almeno si ha più confidenza, e vi spiego come infiltrarvi nel mondo sovranista, no? E stare lì ad aspettare che finisca il mondo. E mi rendo conto, non è un buon risultato, ma è una grande vittoria, però anche un pareggio, perché dico che questi erano ottimi, perché noi abbiamo vinto le elezioni, sì, cioè poi abbiamo vinto le elezioni, abbiamo vinto il ballottaggio, in quattro comuni abbiamo vinto, sì. Poi, i ballottaggi sono nostri, 4-3, cioè su 7 ballottaggi noi abbiamo vinto. Però insomma, non è che sia un grande risultato, ma il sovranismo non muore, anche perché gli italiani hanno la memoria cortissima, no? Cioè hanno la memoria, gli italiani hanno la memoria come i pesci rossi, presente i pesci rossi nella boccia, così in sala, che fanno, magari sono 4-5 dentro una boccia, fanno, oh guarda, c'è un cuscino nuovo, e c'è anche una poltrona nuova, sì, hai visto, facciamo un giro, oh guarda, c'è un cuscino nuovo, anche una poltrona nuova, sì, è vero, facciamo un giro, gli italiani sono uguali, oh guarda, ma ha detto delle accise, sì, ma anche delle cartelle sotto casa, facciamo un giro, oh guarda, ha detto delle accise, e le cartelle uguali, ciao. No, venite. Allora, tu saresti mai venuto qua a gratis se non avevi da pubblicizzare il tuo spettacolo? No, a ben 3 persone, perché gli altri sono tutti comici. Perché? Poi qui c'è un conflitto. Scusa, i comici non vengono, guarda che pagano. Ma proprio perché sono comici non vengono a vederti. Sai che c'è invidia nei tuoi confronti. Cioè... Sai che c'è gente che sparla alle tue spalle, che dice delle cose brutte. Sì, lui è uno di quelli. Allora, posso dire una cosa? Io non ho mai parlato male di Walter Leonardi se non in sua presenza. Ma sai cos'è? È che urli. Ma sai cos'è? Che sono sordo. Lo so, ma curati. Ma, ci sono, ma scusa, ma se diventi sordo anche te, iniziamo a urlare entrambi. Ma io ho un udito da 25 anni, me l'hanno notificato l'altro giorno. Un udito e degli addominali da 25 anni. No, gli addominali sono capisci, buone, capisci che non torna alla tua età reale? Cioè, guardate che fusto, guardate. Sto facendo stand up. Ci fai vedere due pose da fisicato? Quelle... Dai, due pose, fai vedere alle ragazze. La prima volta che sono andato in palestra, mi ha detto così, adesso facciamo i piegamenti. Cosa sono i piegamenti? Sono le flessioni. Falle sulle ginocchia. Io ho detto, ma guarda che io sono capace di fare le flessioni che sono in piedi. E mi fa, ah, ok, ok, falle. Io ho fatto tre flessioni così. E allora, signore e signori, se volete vederle! Aspetta, no, stiamo scherzando. E lui mi ha detto, sì, ma non si fanno così le flessioni, si fanno con i gomiti così. E io ho detto, ah, vabbè, che problema c'è. Quante ne hai fatte? Una. Ne fai 10 delle tue e 0 delle sue, praticamente. Vuoi farne una così per far vedere? Ma assolutamente. Walter! Dite. C'è un conflitto di interesse perché questo spettacolo l'ho scritto io, l'ha scritto lui, l'ha scritto un altro che è qua in mezzo e altri due che non ci sono. E io quindi per fortuna non c'entro un cazzo. Tu ci sei dentro, fai due parti in questo cazzo di spettacolo. Brutte, proprio. Guarda, le due parti peggiori dello spettacolo sono gli interventi di Valerio. Non è vero, non è vero, devo dire. E allora, perché io ti venivo dietro, io ti do ragione sempre. Posso, lo sai. Posso dire che io mi sono proprio impegnato per fare male e fidati, cioè di solito faccio male anche ti dico solo che se è in canottiera, vi dico solo questo. Quindi pensate. Ero la parte seducente dello spettacolo. Va bene, basta col momento Marchetta. 6 luglio, ore 21, questo posto est di Milano, che non mi ricordo il nome, scusa. Arena Milano Est, sarà Est immagino. Sto sudando. Signori, mancano due comici, ma forse quattro se vogliamo. Ma prima c'è e il momento prima, cultura. Però, momento cultura, momento speciale. Perché stiamo andando momento in mezzo? Momento talk. Momento andiamo in mezzo, opera. Andiamo a chiedere il parere all'agenda, al polso del paese. Fino a dove arriva il filo? Come va, signori? Come sta andando? Lei è incazzata come una iena, guarda. Mi sembra più stanca che incazzata. Come sì? No, amica mia, qua ci passa un'altra ora, quindi lei... prendi aria, vai dentro, caricati. Fidati, perché qua... fidati che lei ci odia. Vi teniamo qua fino alle 2 di notte stanotte. Non si può uscire, è tutto chiuso. Tu ridi, ma è così? Dai, baffone, vieni a fare un pezzo, dai. Ce l'hai una storia da raccontare. Tu lo chiami pezzo, lui lo chiama a metterti le mani addosso. Poi dopo è una questione di nomi, di termini. Sarebbe un vabbè, torniamo su e chiamiamo il momento però cultura. Io non l'ho mai preso, momento cultura è un'idea di Valerio cultura, Airo, quindi se viene cultura, male lo ha pensato Valerio Airo. Perché adesso va bene fare schifo, però ogni tanto ci vuole anche. Prego, cultura. Vai, io lascio fare a te. E voglio, voglio vedere come lo spieghi. Prego. Sai che mi sono preparato. Allora, fondamentalmente noi abbiamo nel nostro pubblico due persone fedeli, fisse, fidelizzate, che hanno problemi sicuramente, perché per venire a vedere per venire qua tutti i lunedì hanno problemi. Esatto. Hanno scritto un libro sull'amicizia. Purtroppo è presente solo una di queste due persone, perché l'altra è andata a dormire, forse si era rotta il cazzo in realtà. O forse avevi intuito che li avremmo chiamate sul palco. Secondo me si è rotta il cazzo. Ma può darsi. Alla quinta... stasera abbiamo fatto molto schifo. Alla sesta sera ci sta. Abbiamo fatto molto schifo stasera. E quindi io farei un applauso alla metà delle due coautrici di questo libro sull'amicizia, cioè Sonia Teti. Ma che... No, ma noi... Ma lui ti ha detto che vuole che tu salga? Vai, dai! Cosa vuoi? Allora, dici... Hai una copia del libro qui? Vuoi dire due righe sul tuo libro? Settembre, vai. Dai, tanto si rifà la stand up. Chi lo sa, chiedilo a quelli del locale. Ma è un libro che parla di amicizia, quindi è un bel libro. E noi l'abbiamo letto. È una tesi che è diventata un libro che poi è stata rovinata dal fatto che io e lui abbiamo fatto apposfazione. Quindi abbiamo, era una roba bellissima. La mia parla di scoregge. La mia di nightclub e robe brutte, quindi non è la cosa migliore che può accadere in una apposfazione. Quindi non vuoi vendere il libro stasera? Ha un prezzo questo libro? Dai, spiegaci il libro. Spiegaci in quattro parole il libro, dai. Quattro? Al microfono. Poi di quattro cose. Sonia! Quattro parole per descrivere il libro. Sole, cuore. Due sono già, ne mancano due. No, beh, abbiamo chiesto ai ragazzi di farci delle postfazioni comiche perché secondo me i comici sono davvero delle persone rigide che se non che se non avessero scoperto la comicità sarebbero molto pesanti e quindi e come Valeria. E quindi questo è un saggio sull'amicizia che cerca di essere tollerante nell'aprirsi al mondo senza prendersela nel culo. E quindi è un libro molto difficile che ha avuto bisogno di queste bellissime postfazioni e ringraziamo di cuore Valerio e Andrea per questo bellissimo regalo che ci è stato fatto, perché senza la comicità la pesantezza non avrebbe senso. Un'ultima cosa, come si chiama e quando esce? Dovrebbe uscire a settembre e si chiama I nostri amici. È tutto scritto alla prima persona plurale perché siamo un po' folli anche noi. Beh, giustamente, io se no non sareste venute qua tutte le sere. Io ho una domanda, con questa mascherina stai cercando di dirci qualcosa? Sta per ritornare? Hai delle cose che io non so? Qualche anticipazione? Niente, era una curiosità mia. Va bene, signore. Sonia Teti e la coautrice non presente stasera, Melissa Maldera. Sono stanco, chi manca? Chi manca? Allora, manca il tuo. Ah, mio, lui è mio, l'ho portato io, l'ho scoperto io su un campo di provincia un po' di tempo fa. Palleggiava e faceva ridere tutti. Stasera non c'è il pallone, quindi tocca far ridere. Amico mio, Davide, salta su. Vai! Non lo conosco. Quale prendo? Prendo questo, prendo quello. Salve, buonasera. Sì, come sono educato. Allora, sono... non mi ricordo il pezzo. Ok, metto già le mani avanti. Non mi ricordo il pezzo, sono a stomaco vuoto e sono mezzo ubriaco. Quindi diciamo che, da quello che ho capito, è il mantra di Valerio, se non sbaglio. Ok. A questo ho capito dopo questa serata. Quanti di voi sono nati per sbaglio? Quanti di voi? Battano le mani tutti quelli che sono nati per sbaglio, quelli non voluti. Ok, gli altri ancora non lo sanno. Ok, perfetto, va bene. Io ho sempre avuto questo dubbio, perché? Innanzitutto sono partito da una riflessione. Tutti quelli che sono nati per sbaglio devono ringraziare le preoccupazioni che hanno tutte le persone sessualmente attive, ovvero devono ringraziare tutti quei momenti di eiaculazione precoce, preservativi bucati, o, salto della quaglia andato male, sperma incrostato sulla tavoletta del cesso. Scusate se ho detto questa cosa perché Walter ha detto che non si poteva dire, no, non lo so. Questo perché l'ho detto? Perché mia mamma mi ha lobotomizzato, fin da piccolo mi ha fatto un sacco di scherzi, ha generato in me un determinato dubbio. Infatti mi faceva vedere un sacco di fotografie sul cellulare con la scusa di dover rifare casa e mi diceva guarda queste tavolette del cesso, guarda le foto di tuo padre, così. È un po' così, allora, lo posso dire, è un po' stronza, è mia madre. Beh, mio padre non mi aiutava tanto, perché durante i colloqui anche lui scherzava tantissimo. Infatti, quando andavamo a scuola, c'era sempre il mio professore. Azza, paglia, sei un disgraziato. Paglia, mi sa che questo... parlava così un po' alla presidente De Luca, non so perché... È un disgraziato, mi sa che quest'anno lo bocciamo. No, vabbè, ma cioè, nel senso io lo mando così, non è un problema per me, non doveva neanche essere qui, diglielo. Vabbè, tu non lo sai. È sempre così, ai colloqui mi faceva fare sempre questa brutta figura. Una seconda domanda, qual è la domanda che vi fanno più spesso a Milano? Quando conoscete qualcuno, che cosa fate nella vita? Cosa fate nella vita? Prima del nome, tra l'altro. Prima del nome vi dicono che cosa fate, perché bisogna etichettare una persona. Io rispondo quasi sempre niente. E quando rispondo niente, le sinapsi del tuo interlocutore, soprattutto a Milano, vanno in palla, vanno in tilt. È incredibile. Incomincia a balbettare e il suo occhio incomincia a vibrare come un ossessivo compulsivo davanti a un quadro storto. Ce l'ho questa cosa degli ossessivi compulsivi, non so se ci sono qua in sala ossessivi compulsivi, io sono un ossessivo compulsivo. Qualche volta faccio degli scherzi, vado nelle camere da letto dei miei amici ossessivi compulsivi e sposto i quadri, ovviamente. Così quando si mettono a letto, si mettono sotto le coperte, guardano in fondo alla sala, prima di spegnere la luce lo guardano e dicono: ma quel quadro è spostato di un grado. E quindi restano così per un quarto d'ora, si scaricano l'app della Livella, io lo so perché poi mi mandano un sacco di bestemmie su WhatsApp. Ma qual è? Io non posso dire come mi guadagno da vivere quando dico che non faccio niente. Perché do una mano, è un segreto, però ve lo voglio svelare, do una mano a la mia vicina di... La signora che abita nel secondo piano all'Alzheimer, e io le do una mano. Lei mi dà 10 euro per andarle a fare la spesa 5 volte al giorno, il weekend anche di più, c'è bisogno. Poi c'ha sempre il frigo vuoto, mi fa scassare la signora Memento, l'ho chiamata così in onore di Christopher Nolan. E noi abbiamo un rapporto bellissimo comunque, non è uno di quei rapporti fugaci, ci sono degli alti e bassi, ok, va bene, qualche volta mi dice mi dovresti trattare meglio, dovresti passare più tempo con me, non ci sei mai, io in verità ci sono. E poi mi dice sempre, cioè, c'è una situazione un po' particolare, qualche volta mi dimentico il pezzo, cioè l'avete capito, l'avete capito. C'è un momento particolare, quando raggiunge il culmine, l'incazzatura ovviamente, io faccio una cosa, esco dalla porta principale e poi rientro. Quella porta principale è un wormhole, è un barco spazio-temporale, perché le incazzature si annullano, è incredibile. Cioè, pensate, quando mettiamo conto che mi presenti davanti a lei nudo, basta che io esca e che rientri... No, vabbè, quando mi presento nudo non mi dice niente, lì è proprio d'accordo. E perciò non posso sviscerare, qualche volta giochiamo anche al gratta e vinci, è così, qualche volta vinciamo, esco, rientro, quel plurale diventa singolare, è bellissimo. Perciò non posso sviscerare questo segreto, non lo posso sviscerare perché lei è il mio reddito di cittadinanza, è il mio Di Maio nolaniano. E è difficile a Milano trovare lavoro. Oramai tutti quanti si stanno spostando su, verso Milano. Vabbè, io sono terrone, l'avete forse intuito dalla mia voce. Si sposta a Milano, sta diventando la capitale del regno borbonico. Una cosa che spesso sento nei colloqui, qualche volta, i colloqui hanno incominciato ad essere un po' strani, perché fanno delle domande un po' particolari. Di solito, vabbè, dicono i classici stereotipi, allora sì, ti abbiamo scelto, complimenti, bravissimo, però ti volevo fare una bellissima domanda. Innanzitutto, noi siamo una grande famiglia, noi ti vogliamo in questa grande famiglia, ti ho scelto io, però arriviamo all'ultima domanda, quella un po' particolare, che comunque ho creato dopo anni e anni di risorse umane. Ma se dovesse scendere un alieno sulla Terra, che cosa gli faresti fare? Dove lo porteresti? E lì... io non so se digli veramente la verità o se digli cose banali. Non ho il coraggio di dirgli che prenderei Chewbacca, l'ho chiamato così l'alieno, Chewbacca, e lo porterei a mangiare. Prima passiamo dalla signora Memento, entra prima lui, poi entro io, tanto non se ne accorge, e ci facciamo la serata. Ci facciamo un drink, andiamo sui Navigli e poi finiamo con una bella serata, una bella copulazione filmata con delle GoPro, così poi carico tutto quanto su Pornhub e creo questo nuovo genere interplanetario, così divento ricco. Secondo me mi sembra un'ottima idea, però non lo posso dire, chissà poi cosa nasce, cosa viene fuori dopo 9 mesi dal mio grembo. Chewbacca è così. Però purtroppo non glielo potevo dire, mi sono limitato a biascicare e a dimenticarmi il pezzo come in questo momento, ovviamente. E l'ultima cosa, è in quei momenti c'è sempre una voce dentro che ha una leggera inflessione meridionale, che mi dice, e fallo un concorso al comune, dalle 9 alle 5, e poi ti fai trasferire al mare, sempre. Questa è una mia voce interiore che chiamo retaggio culturale, è incredibile, non so se voi ce l'avete, però è tremenda, io la odio. E io ho sempre apprezzato, ho sempre amato fin dalle medie, un particolare posto statale, che non viene mai nominato, non so per quale motivo. Io ho sempre voluto fare il cronista dei cinegiornali dell'Istituto Luce. Non so, fin dalle medie, non so per quale motivo. E quindi io vi volevo leggere un trafiletto, poi mi dite voi che cosa ne pensate. Facciamo conto che questo sia un talent del ventennio, il Fascios Got Talent. Ditemi un po' che cosa ne pensate, sinceramente, perché forse avrei potuto avere un futuro, almeno lì nel ventennio, e non oggi, come potete notare. Nei ruggenti anni venti del ventunesimo secolo, un rampante balilla sogna di divenire un giorno un fulgido componente dell'Istituto Luce, esempio tangibile che l'idea del posto statale germoglia e penetra fin dalla più tenera età. Scrivo così alle medie, ve lo giuro. Poi non so cosa sia successo. Troppe Goliath, forse, non lo so. Una volta divenuti degni sostenitori della razza italica, di fronte all'imminente bando di concorso, si riuniranno in un unico grido, il posto fisso o morte. Ottenuto il tanto agognato ruolo come sportellista, quell'urlo ardito si tramuta in un tormento davanti alla destinazione assegnatagli, ovvero la selvaggia Abissinia. Allora, c'è il Golden Buzz, è un saluto romano in contemporanea. No, lo vogliamo utilizzare, va bene, perfetto. Io vi volevo dire che alle medie comunque qualcuno mi ha fatto il video e l'ha messo online e ho ricevuto delle offerte di lavoro. Ultras del Verona, Casa Pound, ammazza, è bravo sto ragazzo, ammazza. Però a me non mi stanno tanto simpatici perché sono un po' troppo moderati, quindi non mi fanno impazzire. Qualche volta faccio questa voce con la signora Memento. Mi metto nell'altra stanza e faccio, nell'aprile del 1935 l'Etiopia venne, e la signora Memento ovviamente si dimentica della mia presenza, si guarda attorno, va verso la radio che è rotta, si avvicina, alza il volume, sorride ed esclama, ah, è tornata la mia trasmissione preferita. Io vi ringrazio. Grazie. Però le voglio bene alla signora Memento, anche se ha delle nostalgie un po' particolari. Perdonami. No, perdonami, è per dire. In generale, perdonami per questa cosa, per avermi dato questa opportunità. Devo dare a qualcuno. Valerio e Andrea. Signore e signori, fate un grandissimo applauso. L'uomo di Fadenti. Vai a fare in culo. Beh, è il tuo uomo. Il mio uomo ha lottato. Te l'ho detto dove l'ho trovato, campetti brutti. Ma te sei così. Te... Io vado a scoprirli in giro per l'Italia. Te sei un vabbè. Te nuovi li chiami e sette fanche gare. C'è l'ultima comica, ufficialmente, da scaletta finta. Però prima che arrivi lei, dai, cioè, stiamo finendo troppo presto. È l'ultima sera, vi facciamo andare a letto a mezzanotte, dai, stiamo mezz'oretta la tenete. Presto. Mi spiace, stiamo finendo troppo presto. È andato via, purtroppo. È andato via! Lo so. È stato forse l'apice, vero? Me ne rendo ma conto. Perché fino a lì dici migliorerà, no? E invece no, poi va boom. Però. Vabbè, allora. Sondaggio. Noi due faremo un pezzo. Se avete voglia. Ma non sappiamo in scaletta, se non l'abbiamo deciso, eh? Quindi, chi volete prima? Alzi la mano chi vuole fa denti. Nessuno. Vedo due, alzi la mano e con due voti vince Andrea Fadenti. Chi vuole Iro? No, chi vuole Iro? Chi vuole Valerio Iro? È lui, capite italiano? La lingua che parlo? E con due voti. Con un terzo. Con un terzo voto vince Valerio Iro. Signore e signori, Valerio Iro! Io volevo fare il riconteggio, a me sta votazione non mi è mica tornata. Comunque, vabbè, prima cosa io voglio fare un grande applauso a Alex Alge che ci ha ospitato per questa stagione. Non pagano, non sono simpatici e non so, non ci sono cose positive da dire. Finito qua, basta. Allora, cosa che volevo dire io, perché mi guardi così? Cioè, non ho fatto niente, non ho ancora fatto nulla di male. Perché mi guardi così? Non è bello essere... mi guarda con la faccia, con la faccia di chi dice sei un verme. Non è bello, cioè, lei sta messaggiando perché è andato via il fidanzato, quindi... l'abbiamo beccata. Vabbè, stiamo zitti perché il fidanzato sa picchiare, quindi stiamo zitti. No, allora, a proposito dei fidanzati, mi sono mollato con la mia ragazza. Tranquilli, l'ho mollata io perché era incinta. Ci tengo a diventare la classica figura del padre assente, cioè quello che compare una volta all'anno, regala al figliolo di 10 anni la maglia del Milan senza sapere chi tifa Inter e poi se ne va di nuovo. E il figliolo lo osserva e dice alla mamma: mamma, ma papà è un coglione. Sì, figliolo, papà è un coglione. Questo è il mio sogno in quanto figura paterna in futuro che vorrò diventare. E no, in realtà ci siamo mollati perché litigavamo troppo. Per farvi capire, noi abbiamo litigato sul risotto alla parmigiana. Come abbiamo fatto a litigare sul risotto alla parmigiana? Praticamente una sera dovevamo ordinare da Just Eat e troviamo questo ristorante che offre il risotto alla parmigiana. E la mia ex ragazza osserva la figura del risotto alla parmigiana e mi guarda e mi fa: ma come mai è bianco? E io, uomo semplice, da pensieri semplici, le rispondo: sarà fatto con il parmigiano. E no, perché se si chiama risotto alla parmigiana come le melanzane di Parmigiana, ci devono essere le melanzane. E io dico: ma scusa, ma perché deve essere per forza di modo, per forza di cose, collegato con il risotto, con la melanzana di Parmigiana? Ed è che inizia a incazzarsi perché non le sto dando ragione. E mi fa: è come se facessero il risotto alla carbonara e ci fosse il ragù. È strano che nel risotto alla parmigiana non ci siano le melanzane. E lì io tiro fuori una domanda che era rimasta sopita in me per tutta la vita. E le dico: scusa cara, perdonami, ma non sarà mica più strano che un piatto tipico dei Terroni si chiami parmigiana? E lei esplode perché è legatissima alle sue origini, quindi guai chi gli tocca il sud. E si sa, in una battaglia non vince il più forte, non vince il più grosso, ma vince il più merda che sta nei punti deboli. Quindi quando lei mi dice: bastardo, sei una merda e comunque sei mezzo Terrone anche te, io le rispondo: sì, ma io non ne sono fiero. E lì iniziano a volare i piatti. Giorno dopo... mi ricordo che siamo nel 2022, quindi possiamo andare a cercare su Google cosa cazzo sia il risotto alla parmigiana senza bisogno di litigare sulle nostre opinioni. Vado a controllare, è il risotto in bianco con il parmigiano, quindi il ristorante non aveva sbagliato nulla. Glielo dico e come glielo dico lei si incazza di nuovo: ah, te riapri le discussioni, vuoi sempre avere ragione. Non è colpa mia se ho sempre ragione. E lì di nuovo via di piatti lanciati addosso. Praticamente il set buono dei piatti l'abbiamo finito con il risotto alla parmigiana e non l'abbiamo nemmeno mangiato. Però, io devo dire, lei è stata la mia prima relazione seria, perché di solito le ragazze che frequentavo venivano un po' spaventate dal mio carattere esuberante. E quindi dopo 2 mesi tendenzialmente mi mollavano dicendo: ah, mi ha dato fastidio quando eri con i miei amici e hai detto che a Mussolini perdonavi tutto perché aveva una bellissima pelata. E essendo stata la mia prima storia seria, ho imparato delle cose. Per dirvi, ho imparato a capire i monologhisti più anziani di me. Sapete, quelli che vanno in TV e hanno tutti il monologo sulla moglie che rompe i coglioni. Che io, da persona contro i luoghi comuni, mi dicevo, dai Valerio, sarà possibile che in una relazione tutte le donne rompono i coglioni? Sì. E però la cosa che ho imparato anche è che io sono peggio. Perché voi non lo direste, perché penserete sicuramente come si fa a resistere a questo maledetto sorriso. Ma io sono un animale da combattimento. Io amo le liti. Cioè, quando c'è la donna che è fredda, distante, e te le chiedi, ma cos'hai? E lei ti risponde, niente. Io penso, ok, si va in scena. Ed esce fuori il Jack Nicholson in Shining che è in me. E gli dico, no, tesoro! Non è vero che non hai nulla, dimmi tutto, per favore, cara, luce dei miei occhi. Lei mantiene la linea, no, davvero, non ho nulla. Per favore, ci tengo affinché il nostro rapporto sia il più sano possibile, che tu sfoghi i tuoi malumori. Ma veramente, non c'è niente, perché devi far così? Sarà forse che ieri sono tornato all'una e mezza invece che all'una, bastarda? Valerio, mi stai facendo un po' paura. Non ti ho detto niente io per ieri. Però evidentemente ti ha fatto girare i coglioni, caro il mio orologio svizzero del cazzo. Perché fai così? Non ti ho detto niente, perché? No, calmati, Wendy, per favore. Io solo quella testina di cazzo che ti ritrovi, te la spacco in due. Che cazzo è Wendy? Esplodo, impazzisco. Vado fuori, mi faccio un giro, incazzato come una iena. Mi calmo e poi torno a casa, tranquillissimo. Faccio, boh, mi sono calmato. Vedi che il dialogo nelle coppie comunque aiuta. Cioè, è stato bello litigare. Ma io non avevo niente. Non avevo nessunissimo problema. Hai fatto tutto tu. Stai dicendo che abbiamo litigato per niente? Sì, imbecille, che non sei altro! Vabbè, dai... La cosa bella del litigare è fare la pace. Oh, che bello che stiamo facendo la pace. Pace un cazzo. Tu adesso mi spieghi chi è Wendy. E siamo arrivati fondamentalmente a rompere perché non avevamo più piatti da lanciarci addosso, dovevamo passare i coltelli, cosa a cui io ero favorevole. Però poi lì saremmo finiti nel caso di cronaca nera, cosa a cui io ero sempre favorevole, ma avevo paura un po' del cazzo che si poteva trovare sotto la doccia. Quindi lì mi sono fermato, ho chiuso e ho detto, va bene così, al massimo la prossima relazione che avrò, vado a fare terapia di coppia al Lidl che ci sono i piatti a 19 euro. Signori, è stato un onore, un privilegio. È un piacere. Non so se si era notato che non avevo una chiusa. Ho dissimulato. E adesso vi dico, sono molto fiero io di presentare il mio collega, perché cioè, se si parla di schifo, cioè lui è l'apice perché è uno di quelli che si vende bene, lo vedi, è bellino, così poi dice faccio l'autore, il terzo segreto di satira, la satira, sono impegnato, no? E poi parla di pedofilia e fa dei pezzi brutti sulla pedofilia. Quindi fate un applauso a una persona che non stimo né umanamente né artisticamente. Andrea Fadetti! Grazie Vale, che belle le tue presentazioni, che belle. Ultima sera hai rotto il cazzo per 2 mesi e mezzo, ma ormai siamo in dirittura d'arrivo. Come va, signori? Vi state divertendo? Non so che ora è, 23:42, manco io, manca l'ultima comica e poi vi facciamo andare a letto. Ringrazio Valerio che ha aperto un po' le danze sull'argomento donne, fidanzate, compagne. Se mi vedete sudato non è il caldo, ma è una relazione che dura da 5 anni. È una cosa che mi sta appesantendo parecchio, perché sono fidanzato con una ragazza un po' particolare. Chi è qua fidanzato in coppia stasera? Alzi la mano. Solo uno, tutti gli altri single. Signori, conoscetevi, che magari stasera da qualcosa nasce cosa, fate andate a casa in due invece che da soli. Una serata triste andare a casa di lunedì a mezzanotte da soli, invece se magari vi... Però sono tutti uomini di qua, tutti uomini di là, quindi... Comunque, vabbè, vale tutto, la fluidità vale tutto, non abbiamo pregiudizi. Comunque, parlo un po' della mia compagna, 5 anni che siamo assieme. Lei è una ragazza molto particolare, nel senso che ha un sacco di qualità. Molto intelligente, è molto colta, parla 4 lingue, ama viaggiare, ama leggere, ama guardare film complicati, cioè in generale ha un'attenzione verso tutte quelle cose spirituali, quindi verso gli ultimi, non è attaccata ai beni materiali, cioè diciamo ha dei valori molto di sinistra, molto progressisti, che però esprime in un modo forte, in un modo di destra. Cioè, avete presente la dittatura illuminata? Ecco, la mia ragazza è la dittatura illuminata. Altra particolarità è che è molto femminista, ma davvero molto femminista, giustamente. E in tutti questi anni, in questi 5 anni che siamo assieme, mi ha fatto una testa così per farmi capire, e qui mi rivolgo alle donne anche se dirò delle ovvietà, per farmi capire come le disparità tra uomo e donna, anche oggi, nel 2022, sono estremamente presenti. Disparità da un punto di vista lavorativo, disparità da un punto di vista economico, disparità da un punto di vista sociale. Vedo le ragazze qua davanti annuire, sapete di cosa sto parlando, ma magari i maschi, quelli che sono di qua e quelli che sono anche di là, non sono bene al corrente di come sta andando il mondo, e quindi voglio citare gli ultimi dati. Pensate, cari amici maschi, che anche nel 2022, in un rapporto di coppia, 7 donne su 10 rompono il cazzo. La vera domanda è, dove sono le altre 3? Lo so, Nord Europa forse? Lettonia? Norvegia? Vabbè, il problema nel fare questo cazzo di battute di merda è che molte, è che molte volte le prendono sul serio, cioè le persone pensano che io dica esattamente queste cose qua. Soprattutto la mia ragazza, quando mi ha sentito fare questo tipo di battuta, pensava che io dicessi davvero. E mi è successo una cosa simile in un locale a Milano un mesetto fa, dove faccio questa battuta. Fine spettacolo, sono al bar a bere un amaro, si avvicinano 3 ragazzi del locale, sulla ventenni, sui ventina, non erano proprio più svegli del locale, si avvicinano, mi guardano, mi fanno un sacco di complimenti. Io ringrazio e poi mi dicono, la nostra parte preferita, la parte che ci è piaciuta di più, è quella sulle donne. Perché, e apro le virgolette, dici esattamente quello che pensiamo noi. Al che faccio un passo indietro, alzo le mani e dico, raga, voi non mi dovete prendere sul serio, cioè io non penso esattamente quello che dico, io non credo che 7 donne su 10 rompano il cazzo, 10 donne su 10 rompono il cazzo. Però ridi solo tu, le altre vuol dire che rompono il cazzo davvero, forse tu sei l'unica donna sulla fascia della terra che o non rompe il cazzo o è molto autoironica per riconoscerlo, ma questo non lo scoprirò di certo io. Cambiamo argomento. La cosa che mi piace dei pedofili... Bevo. È che, tolto il fatto che si scommono i bambini, di solito sono delle persone molto rispettabili. Non so se vi è capitato di guardare qualche documentario su Netflix, ce ne sono molti sui pedofili, è proprio un argomento che tira molto, stupri, pedofili, cose di questo genere. E se voi guardate i documentari sui pedofili, c'è uno fantastico su questo Jimmy Savile, che è un DJ inglese che è morto, credo, 10 anni fa, ma oltre a essere stato una star a livello mediatico in Inghilterra, quindi proprio televisivamente parlando, da un punto di vista radiofonico, era amico di tutti i più grandi potenti, ha fatto tanta di quella beneficenza, ma tanta di quella beneficenza a livello economico, a livello proprio di fatica personale, che voi ve la sognate. E da quel documentario tu capisci che se togli il fatto che lui ha molestato 500 bambini, non sono pochi, 1, 2, 500, ha fatto un sacco di cose buone, ma davvero tante cose buone. Io mi sono reso conto, guardando quel documentario, che non ho la metà della caratura morale che ha Jimmy Savile. Cioè proprio la metà, io fumo erba tutti i giorni, tutti i cazzo di giorni. Ogni tanto prendo l'MD, ogni tanto prendo i funghi allucinogeni, se la sera esco un gin tonic me lo bevo, la mia fortuna è che pippo poco. Pippo il giusto. Comunque, questo meccanismo per cui io ho tanti difetti e un pregio, che è quello di scopare persone sopra 18 anni, fa sì che io sia meglio delle persone che hanno molti più pregi di me, che però hanno un unico difetto, che è quello di scopare persone sotto i 18 anni. Però capite che questo meccanismo, dove tu hai tantissimi pregi e un cazzo di difetto, fa sì che tu venga valutato male, è un meccanismo del cazzo, è un meccanismo subdolo, è un meccanismo truffaldino. Cioè, facciamo così, facciamo che valga anche al contrario. Cioè, tu hai tanti difetti, tantissimi, ma un pregio che ti riconoscono tutti e vieni valutato bene. Faccio un esempio, Adolf Hitler, uomo di merda, ma signori, ma che caffè che fa? Che fatica, immaginatevi il contesto. Tu sei a casa di Hitler perché ti ha invitato a bere il caffè. E già è strano. Tu hai detto sì, ed è ancora più strano. Sei lì a casa sua, seduto a tavola. La mia domanda è, di cosa puoi parlare con Adolf Hitler? Adolf Hitler. Di cosa puoi parlare? La lingua mi è andata tra i denti. Cioè, nel senso, lui carica la moca. Dal momento in cui la moca è in tavola, tu puoi sempre parlare di quanto è buono il caffè, di dove ha imparato a farlo, di quanto tempo ha passato a Napoli. Ma da quando carica la moca a quando la moca fa, in quei cazzo di 5 minuti in cui il caffè non è salito, tu, con Hitler, di cosa puoi parlare? Mi immagino questa scena. Sei seduto a tavola, guardi la moca, guardi il Führer, guardi il centro tavola ricamato a forma di svastica e fai a Hitler l'unica domanda che gli puoi fare in questo periodo storico. Lo guardi, bevi, poggi la tazzina e gli fai: ma Putin? Che non è neanche tanto una domanda, ma è più una... cerchi di buttare una sponda, cerchi di avere un apprezzamento. Vuoi sapere se il Führer la pensa come te? Cambio d'astricamento... ragazzi, ho le R che vanno al posto delle vocali. Comunque, cambio argomento e racconto l'ultima cosa. È una storia di... una storia vera che è successa tanti anni fa ed è una storia di molestia sessuale che mi vede protagonista in prima persona, come vittima, giusto specificarlo. Cerco di farla breve perché decolla al finale. È una storia vera, avevo 20 anni, quindi parliamo di 19 anni fa, facevo l'università a Parma, io sono di Mantova, quindi Parma era molto comoda, questo è un dettaglio geografico che non c'entra un cazzo, ma volevo dirlo, Parma era molto comodo, e avevo il sogno di fare lo scrittore, di scrivere, giornalista, comunque di lavorare con le parole. Tramite mio padre, che all'epoca era un sessantenne, 65enne, conosco un suo amico coetaneo, che si chiama come mio padre, Roberto e Roberto, sembrano D&D, quelli di Squared, ma comunque Roberto che di professione fa lo scrittore di libri, libri storici, romanzi tipo Massimo Valerio Manfredi, quei libri sui templari un po' di merda, comunque fa lo scrittore e dice che vuole lavorare con un ragazzo più giovane in modo tale da svecchiare il linguaggio. Facciamo un incontro, io mi trovo bene, lui si trova bene, c'è mio padre presente, iniziamo a collaborare. Io gli mando degli scritti, lui mi manda degli scritti, passa un po' di tempo, tutto va benissimo ed una sera questo Roberto, non mio padre, mi invita ad una conferenza dove c'era molta intelligenza a Ferrara, a 3 ore da dove abitiamo noi. Mi dice: vestiti elegante, mi metto giacca e cravatta completo, vado in macchina con lui, andiamo alla conferenza, mangiamo, beviamo, ridiamo, ascoltiamo i relatori. Nel tornare indietro, mentre siamo a metà strada, ad un certo punto Roberto, dopo aver detto una frase paternalista che non ricordo, mi mette una mano sulla gamba, più inguine, ed indugia qualche secondo di più. Io non dico niente, lui non dice niente, è molto bravo a cambiare discorso ed arrivo a casa sano e salvo. Passano dei mesi, mi richiama al telefono e mi dice: guarda, ho molta urgenza di parlare con te. Accetto, ci vediamo di nuovo in macchina. Non so perché la roba col molestatore è sempre in macchina, ma siamo di nuovo in macchina. Lui mi parla, è molto tranquillo, non fa riferimento minimo all'episodio spiacevole successo tempo prima, e mi dice: guarda, io mi trovo molto bene a lavorare con te, però sai, prima, per poter andare avanti, per poter continuare a collaborare, io ho bisogno di sapere che mi posso fidare di te. E io gli dico: Roberto, ti puoi fidare di me? E lui: ho bisogno di una prova fiducia. E io: Roberto, dimmi qual è la prova fiducia. E lui: mi devi fare un pompino. Strana prova fiducia, penso. Ma comunque decido di stare al gioco. E gli dico: Roberto, guarda, io la prova fiducia la faccio anche, ma capisci bene, anche io prima ho bisogno di sapere di potermi fidare di te. E lui: ti puoi fidare di me? E io: ho bisogno di una prova fiducia. E lui: dimmi qual è la prova fiducia. E io: ho bisogno che ti fidi sulla fiducia. E lui: ma come faccio a fidarmi sulla fiducia se tu non fai la prova fiducia? E io: ma la mia prova fiducia consiste proprio nel fatto che tu ti fidi sulla fiducia. L'ho spiazzato. Sono andato avanti mezz'ora e alla fine l'ho convinto a farmi fare un pompino. Signore e signori, è stato un grandissimo piacere. Chiamo Valeria Ro per annunciare l'ultima comica, forse la nostra punta di diamante. Valerio, pezzo di merda, sei fuori a bere, vero? Io vado avanti perché la scaletta non tiene conto di ritardi. Stronzo! Andrea Fonetti! Vaffanculo! Bravo! Tua sorella! Vai a fare in culo di nuovo. Allora, alle 23:54. Allora, adesso, perché... Chiamiamo... Cosa si dice se... Sta sul cazzo. Vuoi il microfono? Cazzo, veramente sul cazzo e si dice tanto, no, le donne non fanno ridere, le donne qui, le donne... Cosa si dice? Le donne... Noi chiamiamo una professionista, una che è andata in TV. Che smentisce tutto. Una che fa migliaia di visualizzazioni e fa cagare, cioè nel senso, semplicemente è il momento che dicono vabbè, facciamo lavorare anche le donne. No, no, non cercare risponde me, io mi dissocio. Tu ti assumi la responsabilità di quello che dici, vero? Ascolta, io Laura Formenti l'ho vista tante tante volte. Quando era alta così, vero? Vabbè, quando era alta così io avevo meno 35 anni però. Quindi oltre che della scarsa le hai dato della vecchia. In un colpo solo, artista. Fate un grosso applauso a colei che è arrivata a terza, quarta, a Italia's Got Talent. Vabbè, ma... Laura Formenti! Grazie! Mette un po' in imbarazzo sempre quando sottolineano una donna, ora una donna, quando... Sai, è sempre un po' imbarazzante quando sottolineano le tue disabilità. E... Mi hanno regalato il momento d'oro della serata, no? Siamo tutti in cerchio, in silenzio, stanchi. Sembra una seduta spiritica, cazzo, questo... o l'anonima alcolisti. Sono rimasta colpita da quello che diceva Walter rispetto al fatto che siamo tutti un po' buonisti qua, no? Io, perché è una cosa che ho sempre pensato di me, è un problema che... ho fatto sempre molta fatica a gestire questa cosa di sentirmi buonista, perché io vengo da una famiglia buonista, io ho un papà comunista e una mamma ipercattolica. Cioè, capite voi che più buonista... Cioè sono proprio cresciuta papà comunista, mamma ipercattolica, cresci tipo confuso. Dici, i bambini bisogna mangiarli o incularli? No, c'hai quella difficoltà iniziale, ovviamente poi ho scoperto che non si fa nessuna delle due cose, cresci, diventi capitalista e sai che i bambini servono a cucire le scarpe per un euro l'ora e siamo tutti a posto così. E devo dire la verità, insomma, io con questa mia modalità un po' buonista ho sempre fatto fatica un po' a integrarmi a Milano, ci sono delle cose di Milano che sto cominciando a patire un pochino, magari condividerete. Una di queste cose è il fatto che siamo tutti in terapia. Ditemi che non siete in terapia. Siamo quasi tutti in terapia e se non siamo in terapia stiamo pensando di andare in terapia, ok? Io sono in terapia da parecchio perché ho questa cosa che per alcuni forse sembra un vantaggio, io sono storicamente single, io sono single da tantissimo tempo e la mia psicologa mi ha detto che questa cosa è una coazione a ripetere, cioè, so, visto che alcuni di voi sono single, no, quando sei single da tanto tempo è perché è la coazione a ripetere, cioè tendi a fare sempre lo stesso tipo di cose con lo stesso tipo di uomini, ma ti aspetti un risultato diverso che si chiama appunto coazione a ripetere o sindrome da elettore del PD. Perché no, tendiamo un pochino così, a fare sempre le stesse cose. E cosa, cioè, mi ha colpito perché recentemente ho incontrato alcune persone che dicono che invece andare allo psicologo in alcuni posti è imbarazzante. Noi a Milano ci vantiamo di andare, per noi è uno status simbolo andare dallo psicologo. Io sono uscita con gente che dice stai a vedere la mia collezione di psicofarmaci, cioè a Milano è figo andare dallo psicologo. Invece mi hanno detto che in alcuni paesini invece è una cosa un po' imbarazzante, no? Tipo una mia amica ha aperto uno studio dello psicologo in un paesino di provincia e mi ha detto che ha fatto lo studio in una vialetta laterale, capito? In un posto dove entrare è un po' difficoltoso, perché ha detto che la gente si imbarazza andare dallo psicologo e quindi ha preso, capito, l'entrata sul retro. Come le puttane. Uguale, cioè io mi immagino che ci siano dei paesini ancora più arretrati in cui direttamente questi poveri psicologi sono costretti a lavorare sulle statali, no? C'è una latta con il falò e intorno quattro psicologi che ballano cercando di attirare i clienti. E poi ci sono questi poveri abitanti del paese che inchiodano di fronte, così dicendo, minchia, speriamo che non mi veda caricare uno psicologo, che figura di merda se qualcuno mi vede caricare uno psicologo, lo psicologo sale... 30 qui, 50 in studio, io do tanto amore al tuo cervello, che poi è una cazzata, ovviamente, è un paragone anche stupido perché la mia psicologa per 50 euro non salirebbe neanche in macchina, chiaramente essendo una psicologa di Milano. Un'altra cosa è questo finto accettazione che c'è a Milano di tutti, no? Siamo sempre, no, io guarda, io sono aperto a tutti, io sono, cioè, proprio a tutte le diversità, le differenze, però anche solo quando dici una banalità, tipo appunto che sei single, hanno bisogno sempre poi, di, no, di cambiarti, no, di dirti quelle cose del tipo, vabbè, ma non ti preoccupare, troverai qualcuno, perché... Perché per trovare qualcuno devi prima imparare a star bene da solo. Ah, e se cerchi casa, impara prima a dormire bene in macchina. Vedrai che la casa arriva. Vuoi dimagrire? Ammazzati di spritz e patatine. Vedrai che la magritudine arriva. Ma se imparo a star bene da solo, ma che cazzo me ne frega poi più di trovare qualcuno? No? Logica, qua sono i single che... Logica stringente. Che poi... Alla mia età il vantaggio è che prima mi dicevano tutti, ah sei single, ah, vedrai che troverai qualcuno. Adesso mi dicono, ah sei single, ah, basta, conversazione finita, ok? E però il vantaggio di essere single a Milano almeno, in questa fascia d'età, è che hai una fascia d'età ampissima su cui puoi lavorare adesso, così è, no? Vero? Cioè puoi uscire con della gente, no lo so che tu sei impegnata che non puoi, ma tu guarda me, non guardare lui, no? Cioè tu puoi uscire con della gente fra i 30 e i 50 praticamente, che sembra una figata, dici padri e figli, un family day, ok? Esci fra i 30 e i 50 e scopri una cosa incredibile, se non avete mai vissuto questa esperienza ve lo dico, che c'è una differenza fra i trentenni e i cinquantenni, pazzesca, uomini, ed è il porno. Cioè i trentenni sono cresciuti col porno, i cinquantenni conoscono il porno, ma non sono cresciuti col porno. E la differenza è pazzesca. Cioè io sono uscita con dei trentenni, ma giovani ragazze trentenni, ma come cazzo fanno? Ma come cazzo fate a uscire? No, perché, cioè i trentenni, non lo so, sono fuori. Io sono uscita recentemente con uno, saliamo in casa, ci stavamo baciando, ma eravamo proprio, ci stavamo baciando, e lui dal nulla ha cominciato a fare, oh yes baby, oh come on baby, oh yes baby. Che cazzo è un corso d'inglese? Livello B2, the beach is on the table. No, cioè hanno queste categorie porno fuori di testa, ti devono sempre appendere da qualche parte, non so quale categorie porno abbiano, deve essere qualcosa tipo Cirque du Soleil avanzato, rodeo. I cinquantenni no, sono più rilassati. I cinquantenni, cioè, no? Quando fai sesso ti danno del voi. Oh, come un porno fascista ma senza olio di ricino. Cioè, è proprio, no? Ci siamo gelati sul fascista? Ok, scusate, eravamo buonisti, cioè, mi ero dimenticata. Cioè, i cinquantenni sono più rilassati perché, appunto, non sono cresciuti col porno. Adesso il porno è diventato praticamente una superpotenza. No? Diciamocelo, il porno è una superpotenza. Poi, dopo il lockdown... Cioè, ormai potrebbe essere non più pornhub.it, ma direttamente pornhub.gov. Capito? Con lo speed per entrare. No? E Pornhub recentemente ha messo le sanzioni alla Russia. Cioè, e Putin si è cagato in mano, perché io l'ho visto. Cioè, è la sanzione che l'ha preoccupato di più. Ha messo le sanzioni alla Russia. Se volesse Pornhub ormai farebbe, capito, stato autonomo, potrebbe tranquillamente entrare da solo nella NATO e lo farebbe a modo suo. Oh yes, NATO, oh yes, NATO. Sicuramente. Un'altra delle cose che mi imbarazza di Milano, e qua entriamo nella parte non provata, quindi siate generosi nel dire che fa schifo, il marketing ormai è dilagante a Milano, è dilagante ovunque, ma è dilagante particolarmente a Milano. Avete notato che hanno chiamato la fermata della metropolitana Garibaldi la fermata Nissan? Cioè l'hanno brandizzata la fermata Nissan. Il comune ti consiglia di prendere la metro e la metro ti consiglia di prendere la macchina. Sì, la fermata H&M la riconoscete perché i barboni sono vestiti un po' peggio del solito. Ok, hanno chiamato lo stadio DAZN, il teatro che banca. Cazzo, finalmente un teatro che fattura. Porca troia, no? Dove probabilmente la borghesia milanese va a vedere i miserabili. Vieni Carlo Alberto, vieni, andiamo a vedere i poveri. Oh zia, come allo zoo. Sì, ma non dargli da mangiare che hanno già il reddito di cittadinanza. Cioè, no? Sono... Il marketing è ovunque. Infatti io mi chiamo perché l'avete chiamato Ex Arge questo posto? Dai, cioè che nome... Cioè, li vogliamo fare i big money, brandizziamolo, chiamiamolo, che ne so, il Pala Tampax di Milano. Cazzo, no? Buonasera, benvenuti al Pala Tampax di Milano per questo evento serale un po' notturno, 5 goccioline di assorbenza, no? Così, cazzo, fai i soldi, no? Io mi chiamerei, no, Laura Porsche Cayenne Formenti e facciamo tutto così, ci facciamo dare i soldi per fare queste cose qua. Inizia, siete mai stati recentemente in autogrill? Ormai, cioè, tu entri, chiedi un caffè, vuole spremuta? Vuol fare menù? Biglietto della lotteria? Ma che cazzo sono tutte queste domande? Chi ti manda? Mia madre? Ma poi che cazzo c'entra il biglietto della lotteria che io ti ho chiesto un caffè? Non c'entra un cazzo il biglietto della lotteria? Mica vai dal benzinaio, il benzinaio ti dice: ho visto che ha fatto benzina, vuole anche sofficini? Tono 2,99, vuoi farsi mio cugino Ernesto? Cioè, oddio, dipende, se il cugino è carino ne possiamo parlare. Se vai in autogrill, ho visto che hanno cambiato anche l'acqua, cioè non c'è più l'acqua da mezzo litro, hanno fatto quella da 750 per fartela pagare di più. La prossima volta che andrò a chiedere dell'acqua, cioè mi daranno direttamente la cassa da 6, beve qua o porta via, cioè direttamente, capito? Ormai la cosa più economica da bere in autogrill è la benzina, ci avete fatto caso? Cioè in realtà sarebbe il GPL, però gonfia un pochino. E poi non puoi più scendere in cantina a prendere l'acqua, perché non si sa mai nella vita, no? Io penso che, no, cioè, dovremmo secondo me fare la rivoluzione su queste cose. Dovremmo completamente, cioè, io dovremmo fare delle brigate rivoluzionarie contro il marketing. Le potremmo chiamare, che ne so, BR. No, BR mi sa che l'hanno già registrato come marchio. Lo chiamiamo Movimento e Rivoluzione delle Condizioni Esistenziali. Merde, eh? Il brand merde. Senti come spinge? Una figata, merde. Cioè, tu entri in autogrill... E sei parte delle merde, come noi, entri in autogrill, quando cominciano a dirti: vuole caffè, biglietto della lotteria, vuol fare spremuta? Tu gli dici: quattro chihuahua da combattimento ce li avete? Unicorno dondolo in ferro battuto? No, eh? Braccioli da lago con meccanismo salvabambino? Niente? Ma non avete un cazzo in questa autogrill! Adesso la prossima volta faccio tutta statale, merde! E te ne vai, no? Facciamo un applauso così. Mi ricordo che cazzo devo dire dopo. Oppure, non lo so, entri in quei negozi, sai dove le commesse ti puntano, no? Che tu entri e senti già la musichetta. Entri, no, nel negozio e vedi la commessa che è lì che sta pulendo un paio di mutande intimissimi, ti guarda, tu la guardi, lei ti guarda, tu cerchi di distogliere lo sguardo, ma lei ti punta, mette giù quello che sta facendo. Si avvicina, tu le sorridi, lei ti sorride, tu le sorridi, lei ti sorride, tu afferri un paio di pantaloni rossi, haka toro, haka! Quando lei si avvicina le dici: sto solo guardando, stavo guardando, sono una guardona di pantaloni unisex, ok? Quindi pantalon asterisco, non c'è bisogno di giudicare, ok? Merda! E te ne vai. Ma io lo so che la colpa non è delle povere commesse, ok? Io lo so che la colpa è proprio dei vertici, no? Che ne so, del capo mondiale di Foot Locker. Quindi noi entreremo lì dove c'è il capo mondiale di Foot Locker, entreremo e diremo: merde! Ah, lei è del movimento? No, voi siete delle merde! Entri, ti metti dietro di lui e cominci a dire: Non ti preoccupare, compra quello che vuoi. Io non ti giudico, sto solo guardando. Se hai bisogno di qualcosa, chiedimelo, tu guarda, guarda pure con tranquillità. Io ti guardo qua dalle telecamere di sicurezza. Vuoi comprare qualcosa? Se compri la scarpa destra, ti consiglio di comprare anche la scarpa sinistra. Sì, di solito fa bilanciamento. Vuoi delle solette per sembrare più alto? Delle solette per sembrare più basso? Delle solette per sembrare più storto? Vuoi, che ne so, dei lacci per le scarpe, scacci per le larpe, mazzi per le carte? Che cazzo vuoi, eh? Vuoi... Ah, abbiamo degli ottimi prodotti per la pulizia della pelle, delle scarpe, della pelle, figlio d'Apollo. Che espressione, allora cazzo, compri o no? Merde! Così chiudo questo piccolo mio comizio a favore dei diritti dei noi consumatori. Chiudo questo piccolo comizio dicendo che secondo me dovremmo unirci, dovremmo attivare un nuovo fronte rivoluzionario, e potete scoprire tutti come attivarlo acquistando il mio corso. Il mio corso diventa una merda efficacemente a soli 9,90 €, e se porti un amico puoi avere anche un favoloso CD di Cristicchi, che non serve a niente, fa cagare, ma fa niente, compratelo, merde. Grazie. Valerio, cazzo, sempre a ubriacarti! Fate un applauso all'ultimissima comica della stagione! Laura Formenti! E non si dica che la serata brutte persone sia contro il progresso. L'ultima comica è proprio una comica, una donna. Non si capisce più quello che dici. Vuoi? Guarda, è colpa di quel bastardo. Di chi? Lascia stare. Allora, fatto due ore e dieci. Vuoi esibirti te? Con chi ce l'hai? Dove stai andando? Vuoi esibirti? Aspetta. Vuoi esibirti? Vuoi far 5 minuti? Ma con chi ce l'hai? Guarda che riveliamo il tuo segreto, Lo riveliamo! Ah sì, che quando tu sei andato via, lei era molto attiva sul telefono. Chissà chi stava scrivendo. Valerio Andrea, professione rovina coppie. Esatto. Adesso noi ridiamo, ma lui in macchina le farà. A chi cazzo stavi scrivendo? A Gianfranco. Ah, quello, a Gianfranco di prima. Quel bastardo, quello... Presente quello che veniva, diceva... Ah, lascio da pagare. Non so, sai che non so dove stai andando a parare. No, è vero o no che hai pagato un conto in sospeso per lei di 177 euro? Ha pagato il conto di Gianfranco. Chi cazzo è Gianfranco? Cornute mazziato. Sai che non so cosa rispondere. Gianfranco è quello con i capelli bianchi, un po' lunghi, la barba, una barba, cioè nel senso una barba. Ma quello alto? Più di noi. Vabbè. Cioè, definirlo alto no. guarda il gelo che c'è tra le persone, che pensano che questa cosa va a parare da qualche parte. E invece no, potrebbe andare avanti 2 ore senza niente, senza motivo. Diamo la buonanotte? Ma Gianfranco alla fine chi è? Ma che cazzo? C'è qualcuno che si chiama Gianfranco qua? C'è un Gianfranco in sala? No. Pensa al successo che stiamo avendo adesso. Io ti ho detto, vogliamo finire male? Beh, direi che... Ci penso io. Vai, io ti presento, fai da solo. No, era questo. Ah, ok, no. Cioè, guarda, secondo me io e te insieme facciamo ancora più schifo che da soli. Perché infatti, secondo me, da questa stagione... I comici, tutto sommato, sono stati anche bravi. I comici sono stati bravi, ma noi siamo stati bravi ad abbassarli. Ma la cosa che ha fatto schifo siamo stati io e te. Sì. E questo è un motivo per rifarlo l'anno prossimo. Secondo me dobbiamo cambiare però le scalette l'anno prossimo. Cioè, quindi più me e te. Più gente come me e te. Ah, ok. Cioè, più gente che non sa star su un palco. Andiamo a chiudere, cosa dici? Ringraziamo. Allora, avevamo un sogno noi tanti mesi fa. Che sogno avevamo? Un sogno di fare la serata più brutta di Milano. Ce l'abbiamo fatta. Grazie a tutti. I soldi! Mettete i soldi nelle buste, merde! Mettete quei 2 euro, un euro che vi è avanzato. Sono a favore del movimento merde di Laura Formenti. Merde! Purtroppo marchio non registrato di cui Valerio si è appropriato stasera e da domani sarà nei suoi monologhi. Purtroppo la vita del comico è così. Perché c'è gente come lui che ruba, lo so Laura, lo so. Però se non ladro gentiluomo. Signori, ci sono delle buste, se non avete pagato ficcacciti dentro qualcosa, se avete pagato e vi siete divertiti buttateci dentro qualcosa lo stesso. Ma non si è divertito nessuno. E allora che cazzo vi dobbiamo dire, andatevene via e... Torniamo a casa poveri. Signori, ci rivediamo a settembre se tutto va come deve andare, grazie. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti e porco Dio! un grazie all'ex Alge che ci ha ospitato e un grazie a Valeria Airò che ha fatto battaglia con loro dal giorno uno per fargli capire come un locale deve resistere ai comici pezzi di merda.